metal del gioco. Allora, La pubblicata proprio sul CD, credo. benvenuti. Vediamo se ci Benvenutissimi. fanno. Che cosa sta succedendo? Noi non lo sappiamo, voi lo sapete? Ebbene sì, l'ultima sessione dell'anno. Ah, c'è anche un Però volevo selfie. beccare anche Sheo che sta guardando le cose del matrimonio. Aspetta che Dov'è? metto... Chi vuoi più Non c'è grande? ancora. Sala grande. Selfie. Ok, selfie di matrimonio. No, cosa? Selfie di... Selfie di ultima sessione, signori. Da un Ultima po' paura, sessione cara. Dell'anno. Che detto così Dell'anno. sembra che qualcuno ci Non si debba sa lasciare, anche mai. se ormai sappiamo tutti che l'anno prossimo È è il domani. 35esimo Ultima di Vez, sessione. quindi Ah, ultima riposiamoci. sessione in tutti i sensi, dai, È per ragazzi. lui una delle Una ultime. delle ultime. Ah, devo andare a prendere la birra. No, perché gli Perché muore? trambotto, L'ultima figurati. sessione Ah, ma è dell'anno un attimo, dove giochiamo a... A cosa giochiamo? Non so, sala. A un gioco. Grazie. Di ruolo Sì? Uff, Sì. meno male. in cui uno di noi sarà il master e E sarai tu. gli altri fanno i giocatori. Pazzesco. Oh, Oh, questa cosa. finalmente qualcosa di Oh, nuovo. esatto, funziona Pazzesco, meglio. ragazzi. Una one shot per chiudere l'anno. Un gioco dal titolo. Allora, io Oddio. mi Ah, scuso se secondo me questo dovessero va meglio. seguirci come al solito quelli che Buone, hanno creato il va. gioco. Ah, no, ma tu Arci. Intanto Tu Arci, hai bisogno di un'altra penna. vi leggo le regole di questo gioco. Questo è Ovvero la regola dei... troppo Voi sobrio. giocatori Sì. avete una regola per voi, Questo per me è la mia è per stavolta. Sceo. Ah sì, è vero. La regola Aspetta. d'oro per i giocatori è non avere rispetto. Il master non ha alcun Arci! potere Aspetta, assoluto, la sua parola è solo la voce narrante di ciò che è Salla, stabilito nel bisogna di manuale che un'altra tenete in mano e penna. delle sue regole. Questa Non mi penna. stanno ascoltando tanto. No, Scusa, aspetta. Salla. C'è Scusa, Salla, c'è un una cosa momento per te. E importante. puoi poggiarti anche qua, su questo inutile tappetino. Buon Natale! Darei anche a te, Catta, ma ormai sei scomparso. Ma Oh. prima o poi ti riuscirò a Così ho un darti. tappetino per lo studio, per il mio esatto. Mettiamo in descrizione il link per poterli acquistare. Grazie, Esatto. Lez. Oddio, se mi dà dei soldi, sono io il link. Sono io il link. Sei Ah, nera e uso anch'io, perfetta. basta mastercard. Ovviamente questi coglioni l'ha lasciata a casa. Però, Questo ci cioè, avevo mettiamo. tutto. Questa sarà Questo lo la sporchiamo penna sicuro, ufficiale, cento per scusa. cento. Ovvio, beh, fatto Vabbè, ce apposta. l'hanno già mi No, dadi, dai. non so come funziona. Poggialo qua, se no. Che cosa? Si Questo? vede. No. Si vede. Se no, metti, appoggi qua. Forse la cellula, non so. Poco professionale se lo tengo in Quasi. studio questo, veramente. Fai così. No. Come no? Tac. Sì, ma è brutto. No, che È brutto. storto. Sto No, ascoltando di briciole è perfetto. nel Cosa no? Vai. Siamo. Vabbè, che Va bene. bene, dai! No, bene, No, andiamo, certo. andiamo qua, dai. Scusa Salla, mi stava facendo i regali di E Natale. la regola d'oro del giocatore è non avere rispetto. Allora, Io ho capito solo questo e mi fermerei qua. tieni Giulio, tieni Mastercard. Allora, in questo gioco Va siete voi bene, contro scusa. di me. Oh, bene. Marco, forse questo non dirlo. Chiaro, no? Vai, ve la do. Visto che dobbiamo tenere dei punti che vengono chiamati punti esperienza per la goduria di carta, e vi avevo chiesto di prendere delle fiche. E ne abbiamo Esattamente. degli arachidi. Ah Quanti no, siete? sono Uno, questi. Siamo due, pieni di arachidi. cinque, sei. Allora, ognuno di voi avrà 3 punti esperienza. Comincia con 3 punti esperienza. Quindi Sì. Questi 3 fiche. non si mangiano. E tenete il conto anche per me e per Katta. Mettiamoli lì sotto. Katta hai delle fish? Sì. Dai, Anche il master è dai, quando intelligente. giocate a strip poker. Minchia, twistone, no? Le fish le posso Beh, anche... ho trovato questi, guarda, No, le sono posso. No, le piccolini. posso inquadrare. Con tanto toccare, non lo faccio Quindi apposta. ognuno di voi ne ha tre. Ma tu tieni conto per Ma che te. catta che cerca? No, mettete anche le mie. Teniamole lì vicino a Salla. Cioè, anzi, Salla è E anche questo. quelle di casa. Mettiamole qua. Metti qua, E Salla. poi No, beh, mettetele. Katta se le tiene per lui, dai, le sta cercando, vedi. Tanto Sì. catta è E no, inutile. perché in realtà il mazzo è comune. Vai, Ah, ho Cioè, ce le capito. passiamo tra di noi. Allora. Quelle di Katta le metto qua sotto. Quindi è più comodo se le tenete tutti lì. Guarda, quelle di Katta le metto qui. Quelle carte le tengo io, le gestisco io. No, le lasci lì. Bisogna andare. Quelle del Master invece le mettiamo qua vicino. Qua può arrivare a un numero esorbitante. No, no, no, è un, c'è un massimo. Allora, 3 per ciascuno, 4 per me e 10 in mezzo. Queste sono tutte le fiche che vi servono. Ok, quindi 4 per te. Cioè, sono tutti i punti esperienza che vi servono. 10 in mezzo e poi mettere il link. 4, 6, 8, 10. Ah, il link diretto. Allora, arrivo che prendo. Questo è catta, quindi. Questo perché in questo gioco questo i punti è esperienza... il mezzo. Lo metto qua. Hello? Sì, sì, vai, vai, ti ascoltiamo. In questo gioco i punti esperienza sono una risorsa, cioè li potete spendere per fare cose e conquistare durante il gioco. L'unica cosa che dovete ricordarvi è che se voi spendete punti esperienza, quelli che spendete vanno a me. Okay. Mm. Quelli che io spendo vanno a voi. Okay. Quindi non usciamo mai di casa. Sì. Eh? Non usciamo mai di casa, così non succede nulla e non possiamo perdere punti esperienza. Esatto. Allora, voi potete ottenere punti esperienza durante il gioco facendo, portando a termine un obiettivo, ognuno di voi avrà un obiettivo, in teoria è segreto, ma sti cazzi direi, e completando una missione oppure può succedere durante il gioco. Io invece posso, e potete spendere i punti esperienza attivando delle abilità speciali che avete, che poi vedrete nella scheda, okay. Oppure se volete avanzare di livello. Ma anche, quindi questo gioco si può fare. Oh. No, oppure se volete ricreare un dado. Quindi avanzeremo di livello più volte in questa sessione che in tutta la campagna di ricatta. Bene. Sì. No, non lo so. Allora, potete decidere se dovete spendere un punto. Come? Ogni volta che avanzi di livello dai dei punti al master. Di solito sì. Cioè, allora, se guadagnate punti esperienza li prendete da quel punto in mezzo, dai 10 in mezzo, se li date invece li date a me. Tutto chiaro? Faccio. Intanto è indifferente da chi lo fai. Ma non puoi mettere schermo intero, no? Dove? Vedo, scemo, dai. È difficile, cioè, non lo so, cioè, quello. Che cosa? Allora, in questo gioco non facciamo le schede che già siamo in ritardo, ma ognuno di voi avrà un archetipo che tirerà a caso, poi io vi mando la foto della scheda di ciascuno. Cos'è questo? Sta provando a mettere la musica. Non si riesce col cellulare. Vabbè, niente musica. Catta, metti la sigla. La sensazione più o meno che mortiosa, cioè multidimensionale, potreste essere un elfo con uno Space Marine. Per questi sono quelli di... Sì. Mm. Ok. Però... vale un po' tutto e basta. L'altra cosa che vi devo dire, e la maggior parte delle cose sono tirate casualmente, quindi non sono assolutamente bilanciate, potrebbero essere facilissime o difficilissime. Ok. E, è previsto che voi possiate crepare, ma questo dovrebbe esserlo in tutti i giochi di ruolo. Uscire più volte morti, sì, io e te siamo la dimostrazione che si può fare. E che altro vi devo dire? Io vi do un'infarinatura generale dei posti che vedete, ma se avete domande più specifiche potete chiedermele, spesso la maggior parte delle cose sono tirate casualmente, quindi se voi entrate in un posto e mi dite cos'è questo odore che sento, io vi dico odore di feti di velociraptor lasciati marcire perché ho tirato a caso una tabella. Ok. Pensavo stessi citando Yak. Ok. No. Domande? Sì, un attimino, giusto per avere un'idea di dove è ambientata, siamo una compagnia, cose così, ce lo dici poi nei tiri? Non lo sapete. Okay. Sì, forse neanche lui. Scusatemi, la cosa dei punti quindi è che tu devi vincere, tu devi avere più punti di noi. Noi dobbiamo avere più punti di te. No, a allora, fine sessione così in realtà è un gioco competitivo, non è un gioco... non è cooperativo. L'obiettivo dei giocatori è sconfiggere il master. L'obiettivo del master è sconfiggere i giocatori. Okay. Quello che succederà di solito è... Cosa cambia rispetto al solito? Stavo per chiedere io. Ecco, bisogna quando Katta diceva hanno vinto. Cosa cambia rispetto al solito? Esatto. Quello che succede di solito è che in una one shot tipo voi fate una mini avventura e alla fine vi scontrate col master di fatto. Il boss finale sarai tu. A grandi linee. Di solito è così. Poi vediamo quello che riusciamo a fare. Ok. Okay. Le schede non le avete stampate, no. Allora magari prima tiriamo a caso i personaggi e poi vi descrivo che cosa c'è nelle schede. Vai. Così è più semplice. Facciamo in ordine? Decidete voi. Cioè, così, pensate per voi, così, io no, provo così illustriamo pubblicare. Gli spettatori o i vari personaggi. Sì, però con un senso. Comincio tu. Comincio io. Cosa vuoi tirare, Salla? dadi percentuali. Puoi scegliere il colore. Un dado da 100 abbinato a uno da 10, immagino. Cioè, da 100 è, sono due dadi. Secondo voi posso condividere da YouTube su Facebook? Chi lo sa? Facebook ormai è morto. Lo so, appunto per le nostre popolazioni. Ok, sarò di 100. I pakistani. Ah no, devo tirarlo. 51, quanto basta per la maggioranza? Beh, è più classico di così. Poi è il tuo personaggio preferito questo. Tu sarai un mago. Bene. Vabbè, dai. Basta essere un elfo. Mago. Questo lo trovo. Beh, e intendiamo mago. La classe, come si è sempre inteso, mago. No, mago vuol dire che fa le magie. Tutto. Aspetta. È tutto. È Saruman. Tutto. Questo fa famosissimo, dai, cazzo. Sì, però la questo è il mago. Il mago. Manda. Mi sa che l'ha mandato. Sto mandando sul gruppo. Ah, ok. Vai, tira qualcun altro. Io. 64. Ambo. Dai, questa l'aspettavate tutti. 64. Giulio sarà il nobile. Oh. Vabbè, cosa cambia rispetto alle sue? Tanto verrà fuori che io sono lo schiavo, sta a vedere. Ti prego, Servus. Stai tirando al di 100. Ma siamo sta facendo la foto del nome. Io ho camicia, pantaloni, bretello, ecco. Chiavi da vista, sciarpa, gola, allora, faccio notare che non ho le mutande. 0 e 0 e 10 nel di 0. Adesso vi mando le schede. Quello che vedete nelle schede è il nome. Avete una breve descrizione e poi avete già tutto scritto, quindi punti ferita, la specie, tra... anche il nome, cioè siamo già... Sai, mi posso chiamare Mattiel. Sì. Vabbè, il nome magari te lo puoi... Avete anche tutti gli oggetti, tipo Giulio ha... Io sono principessa Mimì. Esatto, tu sei la principessa Mimì. Giulia ci sta. Giulia la principessa Mimì. È la principessa Mimì. E anche una bardatura da parata per animali e un elicottero civile. 31 anni, quindi era più giovane. Onesto, io sono Mattiel di 120 anni, forse più. Eh beh, sei un mago. Un vero hipster snob. Carattere... No, Salla, io sono un elfo di carattere schizzinoso. Cioè, cosa sono? Mi faccio schifo da solo. Abito da sposo. Che altro c'è dopo? Forza meno 1, riflessi più 0. Dai, Salla, 80, cos'è? 80. Ah, Marco, aspetta. 80? Sì. 80 elicottero civile, lo sciamano, autoreggente, reggiseno, reggicano. Perché giù le mutande io no? Due domande adesso. Mitragliatrici pesanti, lo sciamano. Bello. 95. Aspetta, un altro nobile. Boh, fatto altissimo. Droga sportiva, giuro. Droga della verità. Elicottero civile. Bello. Che differenza c'è tra questo e la droga nostra? 95. Lo sei tu, Marco? 90. Dimmi lo schiavo, dimmi lo schiavo della principessa Mimì. Allora, ma avete scelto proprio i ruoli classici. No. Tu c'hai obbligato. Io voglio essere lo schiavo della principessa. Come che Salla in realtà aveva già scelto i ruoli, noi tiriamo il di 100 solo per finta. Salla aveva già. No, beh, dai, c'è il numero, mago, cazzo. L'ha scritto lui. Li scrive lui al momento, hai ragione. Vedi che c'è la penna anche nella foto. Due pagine, scelgo, ti arriva anche il Il truffatore, sono Tritz Do Urg. Beh, il nome mi piace. 172 anni, salute. Livello basso. Nasce maschio in una società matriarcale, sono io. Dopo puoi leggere i nostri personaggi. Sono che altro io. C'è dopo? Sono io. Basta. E carta. Ah, è carta. Carta. Prima carta. O prima. Io ho fatto 72. Tritz Do Urg. 72. Oh. Io Salla sono un vero hipster snob. Sì. Posseduto. Oh. Posseduto. Posseduto, sul serio. No, è l'unico che gioca di ruolo. Occhio, occhio, che non sparecchia. No, posseduto, ti ci vedo troppo. Anche il tuo è su due pagine, purtroppo. Ah, ma io ho anche una musica sette a Walkman, non avevo visto dove sono. Ah, il mio è su due pagine. Sono una, Emily. Adesso arriva la seconda. Ah, ma il mio non l'hai fotografato bene. Sì. Cioè? Cioè che non leggo bene la seconda pagina del mio. Allora, sciamano. Ah, hai ragione. Te la mando adesso. Manca un pezzetto, sì. Sì, ma non è importante. Vabbè, perché a livello alto non ci arrivo. No, che bello, Vez. Mutande collant, golla lume. No, che bello, Vez. Sei bellissimo. Ho anche banconota per 5. Beh, andate d'accordo. Andate d'accordo. La stessa età, due ragazze. Secondo me. 31. Ha fatto 31. Depressivo, Marco, sai, se tu ti chiami il calcul sai già che 31 l'esploratore. Beh, avete scelto anche delle classi un po' banali. Beh, no, però molto varie, dai. 73 era opzione quel Giulio. Chi è il truffatore? Io. Catta cos'è quindi? L'esploratore. Ah, vabbè, dai, non fai. Job Setaton, 10 milioni di anni. Che cazzo è? Chi è 10 milioni? Sì, perché non è un esploratore intergalattico. Sì, ho immaginato. È un esploratore sì. Tulu. Ho immaginato che non fosse un umano. Cioè. Però la camicia hawaiana e il cappello di paglia. Per me, già con questo ha vinto. Chi è l'esploratore? Catta. Ha un cuscino, Catta. Beh, non ha un asciugamano. Bravo, bella citazione. No, non ha l'asciugamano. Sì, potrebbe essere la missione trovare un asciugamano. Però una salvietta, non so se può contare. Ok, collana allora, di fiori. Sei bellissimo. Sulla scheda, e vedete, ci sono le solite caratteristiche più o meno: avete forza, riflessi, movimento, mente, interazione e spirito. Okay. In realtà, ovviamente, dove cazzo sta? Cioè, sono più o meno le solite, no? Mm-hmm. E a parte il movimento, che è una caratteristica più o meno in D&D, le altre sono le classiche caratteristiche. Forza, robe fisiche, riflessi, agilità, mm-hmm. mente, tutte le robe analitiche. Interazione sono le parti di carisma. Invece spirito è la forza di volontà. Movimento immagino banalmente di quanto ti può sposti. Servire anche per altre cose, può servire anche per cura ferita a seconda di quanto è il personaggio è esoterico e quanto è. E dopodiché avete delle capacità speciali tipo catta al volo 6 metri, immune a effetti psicologici, non hai bisogno di respirare, chi ti vede subisce meno una a tutte le prove perché se fai schifo al cazzo così. Sì, io non lo vedo. Ma quello che ci ha girato è il personaggio o l'archetipo? È tutto. Ma le capacità speciali dove sono scritte, scusami? Ah, c'è anche le caratteristiche. No. Caratteristiche sono? Avete anche le caratteristiche, avete l'equipaggiamento. Ah, avete quindi tutto. Niente. C'è Hawaiian. Tu sei il mago, forza meno uno, riflessi no, più sì, zero. Ok, no, dico le capacità speciali. Si vede che le ha lui, non tutti hanno capacità speciali. Tu ad esempio vedi al buio. Per esempio, sì. Anch'io vedo il mio mago. Sì. Allora, da qualche parte dovreste avere anche le armi e sì, nell'equipaggiamento. Esatto, dovreste avere anche tutte, diciamo, quello che potete utilizzare. Quindi è tutto lì. Non c'è nient'altro. Merendina vegana, salla ti odio. Che vuoi? Birra artigianale e merendina vegana, le uniche due cose che non berrò mai. Scusate. Dovresti anche mantenere il vostro carattere. Devi giocare di ruolo, Arci. Sì. Carattere schizzinoso, perfetto. Mi fa schifo la roba che porto. Beh, truffatore, carattere truffaldino. Beh, Camicia. Ci sono, cioè, avete mancato dei personaggi incredibili, tipo appunto c'era lo schiavo. Salla avete mancato, cioè, potevi farlo. Bastava non mandare nella foto il numero. L'unica mancato. Regola di questo gioco è che io devo rispettare il caso del manuale. Cioè, è giusto. Però lo schiavo con la principessa presente era tanta roba. Sì. Peccato. L'altra cosa che avete, quindi tutto chiaro, avete domande sulla vostra scheda? Cosa può essere una scarsella? No. Scusate, sono ignorante. Io penso di essere molto scarso. Molto scarsa. E chi mi risponde a questo? Veramente? Ma voi avete dei più. La scarsella, certo. Quindi è il borsello. Non lo io no. Io ho dei meno e dei più. Io ho un meno uno in forza, però ho un più uno in mente e un più... Basta. Ma sono equilibrate queste cose o no? No. Io... No, non sono equilibrato. Io ho meno uno in forza, più zero in spirito, resto allora, più l'obiettivo, scusatemi, l'abilità speciale, voi siete a livello basso. Ok. Okay. Dovreste avere un'abilità che vi permette di spendere Pix per fare qualcosa. Prendendo un pick, quando ti introduci a qualcuno che non ti ha visto prima, ricevi un bonus di 1 di 10 nella successiva prova di interazione nei loro confronti. Inizi il gioco con 1 milione di PC extra da spendere in oggetti preziosi per edifici o veicoli. Mi sembra un po'. Ma solo una cosa che non mi è chiara: noi siamo tutti una specie di compagnia, siamo tutti insieme. Ancora, dopo. Ah, ok. Che figo! Sì, la mia abilità è che posso convincere qualcuno, un bersaglio, che il valore di qualcosa è molto superiore e se riesco a venderla guadagno. Se riesco a vendergliela guadagno. Che dovete avere. Ognuno di voi ha un obiettivo. Visto che siamo da remoto e facciamo la buona, l'obiettivo sarà vincere. Pubblico. Okay. Ovviamente il giocatore dovrebbe giocare come se non sapessero gli obiettivi degli altri. Ma mandalo se no ognuno di noi. Tirato a caso? No. Non ne ho voglia. Va bene. Tirato a caso, chiaramente. Dai. Ah no, tirato a caso. Tu non ne hai voglia. Dai, mandalo ognuno. Vabbè, dai, tirato a caso, dai. No, vabbè, ci sta, siamo giocatori di ruolo. Siamo giocatori. Hai ragione. Non siamo Ema. Professionisti. Fai vedere, fai distinguiamoci dai. Fai vedere il logo. Ricordo che l'obiettivo, se lo portate a termine. Ah no, fai vedere il logo. Siamo giocatori di ruolo. Siamo giocatori di ruolo. Se lo portiamo a termine ci dai. Se ad esempio qualcuno di voi ha come obiettivo altruista, quindi fare in modo che gli altri PG abbiano completato gli obiettivi quando compare il master, eccetera, eccetera, quell'obiettivo gli darà un punto esperienza in più, quindi si deve ricordare il suo cazzo di obiettivo perché gli darà un punto esperienza che può essere usato. Tirate. Cominciamo da ricominciamo dall'inizio? Sì, sì. Sempre di 100. Okay. Il mio personaggio si chiama sempre Michael. Sempre di 100, Salla. Il mio personaggio si chiama Michael. Uno lì è diventato Michael? No, mi sarebbe piaciuto aver fatto uno. Se per lui, no? No. Ok, accumulatore. Accumuli principessa. Allora, tu avrai un punto ferita se quando compare il master possiedi almeno 100 punti ferita di un materiale a tua scelta. Non ho capito niente, ripeti? Avrai un punto esperienza se quando compare il master. Tu avrai almeno 100 punti ferita di un materiale a scelta. Avete visto che ogni tipo, non so, la padella ha un punto in ferita. Vuol dire che se tu hai 100 sono tanti. Per esempio, 100 sembrano tanti. L'elicottero civile ha 50 punti ferita. Basta quello. 100 basta 2 elicotteri civili. Materiale. Non è un elicottero civile. Materiale. Cioè, un materiale di. Un materiale qualsiasi, può anche essere gelatina da mangiare, qualsiasi però deve cosa. Essere in quella quantità di 100 punti ferita. Io solo un materiale, non un'altra roba. Io parecchia roba in gioiello. No, qualsiasi cosa, però tipo se, ad esempio l'elicottero che ha fatto l'esempio lui che è da 50 deve avere due elicotteri che fa 100. No, perché non è un materiale. È un materiale. Sì. No, sì. È il materiale dell'elicottero, quindi deve essere il totale di, non so, Ah, proprio materiale, quindi non... Però se prendo il motoscafo, la moto custom, la limousine, il fuoristrada, la ruspa, e l'elicottero civile, l'automobile sportiva, qualcosa... Cioè... Ok, chiaro. Va bene, chi tira dopo? Io. Devi avere un'enorme quantità di un materiale. 11. Monete d'oro. Ascensione spirituale. Oh. Devi raggiungere l'illuminazione. Ah, facilissimo. E cioè? Considerando che il mio carattere è volubile. Io ho le droghe. L'illuminazione. Ma forse anche il carattere. L'illuminazione. E quindi? Non si sa. E... Vedremo. Vedremo. Vedremo. 13. Pietro. Redi. Attacca brighe. Inizia almeno 3 combattimenti in situazioni tranquille. Catta brighe. Ma io sono pusillanime, è un problema. Cazzo tuo. 4. Da 95 schiavo. A 4. Esatto. Diventa schiavo di qualcuno. Ecco, era quello che dicevo prima, altruista. Quindi fai in modo che tutti gli altri PG abbiano completato i propri obiettivi quando compare il master. Minchia, se ci riesci prendi un punto esperienza. Ma prenderemo 100 metallo. Allora. Ha piegato da truffaldino ad aiutare gli altri. Un attimo, vado io. Mi sa quasi come servo. 18. Ma tutti i numeri 18, bassi. Buon gustaio, provo almeno 5 cibi o bevande tipiche da luoghi diversi. Aspetta, buon gustaio. Bello. Ma domanda, ce li mandi o ce li scriviamo? Prova no, almeno 5, 5 cibi o bevande? Da luoghi diversi. Se ne provi 20 hai un pix in più. Questo sembra qualcosa di fattibile. Carta? Sembra un di 100? Sì. Devi aiutare, cioè, cucina qualcosa. Ma quindi io devo giocare più secondo il carattere o più secondo l'obiettivo? Tutte e due. 40. Devi raggiungere il tuo obiettivo 40? Col tuo carattere. Sì, ma il mio carattere è pusillanime, il mio obiettivo attacca briga, devo iniziare i combattimenti. Devi iniziare i combattimenti, ma non devi farli. 47. Sì, ma se sono pusillanime... Come giochi di solito? Ti nascondi, ti trasformi in qualcosa e te ne vai. Allora, giusto? Ma non l'inizio. Solo per più di un minuto finché non compare il master. Deve essere al suolo? Sì, per più di un minuto. Deve? No, qual è quello di Kata? Finché non compare il master. Ma non devi saperlo, Giulio. Praticamente per tutta la sessione non devi mai rimanere da solo. Ah. Kata. Non devi saperlo, devi saperlo. Non devi. Ma lo sappiamo da te. Poi tanto non sono dimenticato, erano 5 minuti. Vabbè, lascio qua. Ok, cominciamo? Scusa, ah, yes. Domanda. In teoria sono segreti, giusto? Quindi io che sono altruista, come faccio a sapere di come posso aiutare gli altri se non li so? Oh, magari vedi che uno è incline a fare una cosa e lo aiuti. Hey. Dovresti chiedergli, ma vuoi una mano a fare? Oh, che ne so, ok, va bene. Cominciamo a giocare, vediamo come Ehi, Talcool, vuoi una mano a uccidere queste persone assolutamente innocenti che vogliono solo saper l'ora? Esatto. Sì, grazie. Capito, vedremo. Allora, me? Tritz. Vi... E siete addormentati, avete finito la vostra giornata, ognuno a casa propria. E quando vi risvegliate, però, notate che siete in una sorta di diciamo una piccola radura innevata. Davanti a voi c'è una casetta piena di neve, nevica, e siete voi 1, 2, 3, 4, 5, 6. E non li conoscete prima di oggi. Non ci conosciamo. È la prima volta che li vedete. Ok. Dico e do una bastonata al mostro che non si può vedere. Aspetta, prima descriviamoci un attimo. Scusa, così. Solo una cosa prima di iniziare. Lecito. Cioè, qua dice che si usano i pix, ma noi partiamo con dei pix o tre. No? Tre pezzi. Scusate, avevo perso sto pezzo. Che pezzo è cosa rosso non le vedo. Ah, scusa, allora ve lo ripeto No, posso. Quelli che spendi, no, ripetilo, dai. Quelli che spendi vanno a lui, allora, quelli che spendo lui vanno a lui. Ah, ok. I punti di esperienza voi giocatori li potete usare per qua. Attivare abilità speciali dei vostri sì, pix, l'ho visto. Livello base di solito. Avanzare di livello, non i tre pix che avete già. Quando ne guadagnate uno nuovo, invece di guadagnarlo potete dire salvo di livello. Ok. Sempre con un pix. Devi tirare un dado. Ok. Sempre spendendone in modo. L'unità è sempre uno. Qualsiasi di queste cose è sempre uno. Sì, okay. Sì. Se non volete spendere i punti esperienza per fare una di queste tre cose, perché non li avete o perché non volete darmeli, eccetera, eccetera, potete farlo indipendentemente da quello che è, ma... Tipo, non so, dovreste avere un punto esperienza. Voi volete salire di livello e avere il punto esperienza. Dite, io voglio il punto esperienza. Ve lo prendete, tirate un dado da 100 sulla tabella del master. Non vi serve che vi dica che nella tabella del master c'è merda per voi. E... è chiaro? Tutte le volte che usate il punto esperienza va a me. Okay. Lo guadagnate con effetti tipo gli obiettivi. Se completate una missione o se completate un obiettivo, oppure può succedere durante il gioco che acquistate punti esperienza. Oppure se li spendi tu. O se li spendo io ve li devo dare, sì. Però ne do uno a uno. Sì. Okay? Sì. Tipo, scegli ti piove in testa una montagna, ti dico solo punti esperienza. Esatto. Ok, allora dicevo, appunto, vi risvegliate ma non siete a casa vostra, siete... in questa sorta di radura in cui sta nevicando, voi siete avvolti nella neve, vedete una casetta in lontananza e potete farmi domande a me o descrivere voi o fare quello che... E ci sono anche gli altri di fianco a noi? Cioè ognuno siamo... Siete insieme. Voi sei. Ah. Ok. Allora, io... Spieghiamoci un attimino perché io non ho ben chiaro le fisionomie. Sì. Io sono un elfo scuro. Elfo scuro di quel... No, aspetta, non è un esploratore. No, è Katta l'esploratore. Katta, aspetta, sì, cosa sei? Un esploratore? Di che razza? Di che fattezze? Il progetto sono il caffè. Cosa hai detto? È la sua lingua. Capta il terrorista arabo e... Io sono un elfo oscuro classico. Ok, quindi... Capta, credo che sia un tuo problema sto giro però. No, sicuramente problema. Prova a mettere il microfono vicino alla bocca, potrebbe essere. Sì, hanno che è l'unico connesso. Col sì. Microfono vicino alla bocca sì. La mia scheda è stranissima. Io sono una progenie cosmica, non so cosa voglia dire. Oh, parla. Ah. perché da gamer... Questa carta che se il microfono te lo togli dal culo e lo tieni vicino alla bocca. Perché da gamer, cioè, pensato per... Per il gamer. Bene, piacere BPS. Io sono Job Setaton e sono in vacanza. Come si è fatto, scusami, esteticamente non ho capito la razza. Progenie cosmiche. Sì. Non dice altro nel manuale. Ho una camicia hawaiana, un cappello di paglia, sì. Una collana di fiori e sono sulle montagne innevate, quindi a quanto pare il mio volo deve essere stato... È stato un cambio di valigie, non c'è stato qualcosa che non ha funzionato. Aspetta Sala, gli oggetti hanno PF che sono i punti vita e V cos'è? Il valore. Il valore. Valore. È il valore, sì. Bellissima camicia! Sì, io sono... Bellissima camicia. Quasi sì, grazie. Quasi come la mia. Era per... una camicia. Io ho una domanda per il master. Cioè, gli oggetti li abbiamo tutti dietro? No. L'elicottero non credo. E ti serve durante il gioco, visto che sei molto ricca, secondo me te li puoi fare inviare in un qualche modo. Ok, ok. Diciamo che per il momento mi sono risvegliato solo, diciamo, i vestiti e... Sì, diciamo così. Comunque, visto che io sono pusillato e vedo Katta che è un mostro orribile, io appena lo vedo mi metto a gridare e gli do una bastonata e corro via. Tu cosa sei? Aia! Io sono uno sciamano, mi chiamo Ikalkul e la descrizione è questa. Come ti chiami? Ikalkul! Quando gli europei contattarono per la prima volta le popolazioni mesoamericane, fu il grande sciamano Ikalkul a dire che quelli erano spiriti superiori e che accettare i loro doni avrebbe portato grande prosperità alla loro gente. Beh, si sbagliava di brutto, ma prima che il vaiolo decimasse la gente e se ne era già andato, rimanendo così l'ultimo della sua tribù. Okay. Però sono 75 anni nonostante sei rimasto congelato. Beh, sei un ragazzino. Io invece sono una apparentemente una normale donna di 32 anni che trema nella neve perché ho delle spadriglias e dice dove siamo? Non fa freddo. Ah, non fa freddo. Allora mi accorgo che non fa freddo. E perché non fa freddo? Bella domanda. Se siamo nella neve. Io sono un mago, dovrei sapere queste cose. Un mago. Ma se guardate la neve, non è neve, è polistirolo. Ah. Ah, ok. Oh, qua c'è tanto materiale che potrebbe servirmi. Assaggiamo, signorini. Fuori con i badili. C'è la missione da compiere. Le serve qualcosa, mio signore? 100 pf di polistirolo. In effetti sì, tu sei già obiettivo praticamente. Beh, se sì. Te la giochi bene. Quindi... Lei signorina, non è che per caso ha una... Un elicottero dove stai? Ha una ruspa, se giuro. Cioè, posso chiedere una... No. Più che altro io in questo momento sono vestita con un abito da sport. Vabbè, è chiaro, sei una principessa. È chiaro. Vabbè. Beffa Pandan col polistirolo. Tipo Peach. Esatto. Tipo Zelda. Sei in palette. Peach, è Peach. No, è Peach, ti ci vedo troppo, è Peach. Cazzami. Guardate con discreto intimo sotto, perché qua c'è scritto proprio dettagliato. Dettagliato. Ah sì, io non ce l'ho. Chiaro. Mutande, reggi calze, sì, no, autoreggenti. No, quello dice anche a me. Allora, vi spiego perché sono dettagliati gli oggetti. Scarpe di cristallo. Mutande, collan, camicia. Se subite un danno, potete dirottarlo su un oggetto che indossate. Quindi può darsi che sia tipo strip poker e tu mentre giochi ti spacchi i vestiti. Cioè uno gli dà un pugno, lui può dire mi ha rotto le mutandine. Ok, perfetto. No, mi ha saggiato l'elicottero. Del resto in Baldur's Gate io ho le mutande in Mintara da ormai. Ok, allora va bene. Oddio, non vabbè. Sappiamo che cosa ci vuoi fare e non lo vogliamo sapere. Anche il resto di Ro quando lo prenderemo forse. Io chiedo al master una, oltre alla neve e la radura, se c'è qualcos'altro che può attirare la nostra attenzione anche sullo sfondo. E c'è una casetta. Ah, non l'avevo capito. Ma quindi io non posso iniziare un fight da condizioni tranquille con Katta perché ha un mostro abominio. Cioè, vabbè. Puoi fare sì, quello puoi che fare. Vuoi tu. Volevo dare una... Vanno tutte le regole dei giochi normali. Volevo dargli una bastonata, quello era il mio fight, è scappare. Sì, no, non credo sia produttivo per, diciamo, però poi parlo. Ma sei uno sciamano, non uno sciamano. Marco si è già isolato. Ma io sono uno sciamano che si fa di droga. Vabbè, è vero che si chiama anche scemo in culo. Quindi effettivamente. Scusa, io ho la droga della verità, 4 droghe psichedeliche, la droga divinatoria e 4 droghe allucinanti. Sì, hai ragione. Per me questo è un brutto trip. Vedo un mostro orribile, senza offesa, Katta. Io prendo il mio scettro ingioiellato. Ma perché Katta è esattamente come appare? Progenie cosmica. Non si sa. Progenie... No, ma ha una cosa che c'è scritto che è tipo inguardabile da meno uno a tutti quelli. No, ma che quello credo si riferisse a Katta proprio Katta. In quanto giocatore. E, ma forse dovremmo andare a vedere che cosa c'è in quella casa. Chissà, magari. Scopriamo qualcosa. Voi cosa ci fate qua? Sono in vacanza. Non ne ho idea. Innanzitutto si parte con i nomi. Piacere, io sono Mimì. Che bel nome Mimì. Piacere Mimì. Che bel nome da principessa. Io sono Matiel. È il mio nome. Piacere. Non è un aggettivo, è tuo. Chiedo, vabbè, lo chiederei al master, ma lo chiedo al giocatore. Quello che vedo, oltre allo scettro, hai porti altri monili, gioielli, pieno di gioielli. Ad occhio, cioè, li stai indossando degli anelli, degli orecchini, una collana. Secondo la giarrettiera. Secondo me il diadema ingioiellato, i bracciali, la spilla e lo scettro ce li ho. Ok. Anche la parure non so cosa sia, il diamante. Okay. Sei molto ricca, principessa Mimì. Al contrario mio, devo dire. Ma no. Cos'è in fondo la ricchezza vera? Mica questo certamente Mimì. Aiuta. Ma io mi avvicino a Mimì e con fare il più elegante possibile dico lascia stare questi rozzi personaggi che ci sono capitati intorno. Io ho capito di che levatura tu sia. Venga, la accompagno io. Come sei vestito, scusami? Io in tipo cavaliere, diciamo, mantello... Ho la scarsella che mi hanno detto essere un borsello, ci tengo. Maglia, guanti pesanti, cintura, stivali, pantaloni. Armatura di cuoio borchiata. No, tipo in quel senso. Okay. La balestra, quindi, il pugnale. Quindi cos'è che le dici su di me? Mi avvicino con un fare un po' elegante, vuoi fare un po' il marpione, diciamo. E dice, lascia stare questi sì. Rozzi personaggi, ho capito io di che levatura è lei, venga, l'accompagno. Andiamo in quella casetta a ripararci. Vuoi fare mansplaining con me? No, però da background con le donne ci so fare. Sono nato in una società matriarcale. Ma quindi... La sua vita è stata costellata di principi indolenti, animaletti canterini oltremodo fastidiosi e cerimonie di corte pompose interminabili. Ma ora che ho superato i 30, ha 31 anni, ed è ancora nubile, si è rotto il blasone di tutta questa formalità e ha deciso che non avrà più bisogno di nessuno per difendersi dall'ennesimo drago strega di turno. Quindi è proprio cannato in pieno di ma un mitragliatore. Ma ci proverò. Ma ci proverò lo stesso. Perché ho un mitragliatore. No. Vabbè, sì. Ma ci proverò lo stesso. Tu cosa sei come classe? Io sono il posseduto. Tu come ti chiami? Emily McNeil. Ah, beh, proprio quella è l'Emily, quella dell'esorcista. L'esorcismo di Emily Rose. Era, però... beh, sì, no, si chiama Emily. Emily Betts. Io. Forse sì, hai ragione. Cioè, le qualità che sembrate avere voi, morditi quei capelli, ti ho lo sguardo. Mattel. È un brutto trip. Allora, questi funghi. Ah, il mio, scusate, il mio nome è Tristo Urg. Grazie. Va bene, sala. In casa, ma io ho proposto alla principessa di andare insieme verso la casetta. Non so come funzionano qui le azioni, chiedo. Com'è che ti chiami? Trizdo Urg. Dici quello che vuoi fare, lo fai. Trizdo Urg. Triz, sì. E mentre l'accompagno, tipo, facciamo che la prendo, tipo così, provo a sfilarle un gioiello. No, non hai capito. Quando ti metto, okay, io ti dico davvero cosa è mansplaining e ti faccio. Oh. Ah, era l'interpretazione quella. Sì, sì. Ah, allora niente. Vabbè, però niente? Insisto comunque per accompagnarla intanto verso la casetta. Signori, questo polistirolo invece di neve è molto strano. Com'è che si chiama l'orrore abissale? Sì, in effetti nessuno si è posto il problema, ma sta nevicando polistirolo, hai ragione. Yog Setapon, piacere. Per gli amici? Yog, mi chiamerò Yog. Per gli amici Yob. Yogi? Yogi? Yob. Beh, comunque io approfitto della cortesia di Tritz e gli dico: oh buon uomo, com'è gentile lei, no, la prego, stia sempre vicino a me, ho molto paura di restare solo. Io vedo che lei è molto altruista e quindi penso che sarebbe un grande favore a tenermi compagnia. Sì, ok. Io mi siedo, mi prendo tipo le ginocchia e comincio a dire: deve essere solo un sogno meglio, un incubo, sicuramente un incubo, adesso mi sveglierò, devo dire, apro. Ah cazzo, siete ancora qua? Io faccio esattamente come Emily. io cerco di dare i fughetti erano marci. L'unico che è un attimo serio è lui che dice: raga, stai nevicando polistirolo, poi c'erano questi due così. Emily, non preoccuparti, mangiano di queste, ti aiuteranno. Gli do una merendina vegana. Pensate il polistirolo. Ah sì, grazie. Questo forse, chissà. Tipo, praticamente non scarto neanche la merendina, comincio tipo a mangiare un po' con la plastica. Io cerco di confortare Emily. Sala, ma se uso una roba devo toglierla, giusto? Sì, fai conto che non c'è più. Ma io non posso fare il fight, quindi. Beh, andiamo. Questo è un cibo, bevanda. Va bene, visto che Yob si... accolla, bravo, sì, semplicemente la casa, sì, mi accollo, che magari poi andiamo a fare shopping e mi aiuta a rilassarmi, ho visto che lei paradossalmente mi sembra la persona più normale la principessa che gira col mitragliatrice. Beh, almeno, con mitragliatrice è tipo jeans, sì, però almeno è un essere umano, perché poi sono un uomo in camicia, pantaloni, bretelle, senza mutande. Vabbè, no, infatti da te ho preso la senza mutande. Vabbè, lui è tipo lì così come me, però tipo più pazzo. Beh, sono perché tu ci sono un altro progenie cosmica, non so bene cosa vedere, ma sarà sicuramente un lavoro orribile. Descriviti. È tipo uno di quei alieni di Doctor Who, tipo con la faccia che mi connotati, che sono tipo con la pixelati, con la censura. Ok, va bene, ci sta. Però sei umanoide comunque. Sì, sono umanoide di forma, ho una camicia hawaiana, quindi avrò due gambe, due braccia. Sì, aspetta, ci sono i fumetti di cose. A voi per caso sapete perché sta piovendo polistirolo? Polistirolo? Ma è neve, cosa stai dicendo? È polistirolo. Ma questo non è semplice polistirolo. No, io mi ero addormentata nella mia cameretta, più o meno, e mi sono risvegliata qua. Anche voi non avete capito, questa è rarissima e preziosissima polvere di diamanti, è un evento atmosferico, allora, molto raro. Sono diamanti, dai, ti sembra la stessa cosa? A me no. Forse ci può fare del danno alla pelle, dovremmo muoverci. Andiamo a riparare l'ipocondria. Non ha la pelle. Allora può rimanere fuori. Andiamo, e tu che se mi sembri abbastanza forzuto, entra per primo. forza meno uno. Scusami, c'è armato fine ai denti. No, la palestra è un pugnale. E vabbè, io ho una bretella e una scena. Sì, diciamo che dal, sì, dall'aspetto. Vabbè, va bene, busto andiamo. Io alla porta. Perché tu è vero che sei armato con un bazooka. Un mitragliatore pesante. Quanto hai in forza? Sentite una più voce zero. Che dice... Più parte di... È una voce tranquilla, di quelle... insomma, una voce... che vi ispira simpatia, una voce gentile. Tiro fuori il pugnale. Permesso. Cosa dice? Venite è pure. Aperto. Avanti, aperto. Entro, diciamo, permesso. Allora, è entrato, in realtà non ti aspetti di vedere quello che vedi, che è un salone enorme, tipo un hangar militare, e, in cui al centro c'è un oggetto molto grosso coperto da un telone e sentite che all'interno c'è qualcosa che fa rumore e si muove. Questo è il corpo dei sotterranei di casa. Alla vostra destra vedete, cioè entrato sulla destra, vedete che si sta avvicinando una figura ed è una figura alta 3 metri e vestita di rosso con un cappellino tipo quelli che indossate in questo momento. Ti prego. Red One. Red Notice. Chiaramente Red One. Io mi nascondo dietro alla nobile. Perché è chiaramente la più forte di tutti noi. Allora, quando si avvicina verso di voi e vedete che appare la luce, lo vedete come un grosso ogre, tipo quelli brutti al culo, eccetera, con delle orecchie finte da elfo sulle orecchie sue normali. Vedete che i dentoni escono fuori, ma lui in qualche modo si è cercato di truccare per essere più piacevole. Vedete che è nero la sua pelle e sembra, da una parte sembra terrificante, dall'altra sembra che sia vestito per essere ridicolo. Io vedo avanzare e dico, oh, cazzo di Babbo Natale, poi tipo piego tipo la testa completamente e dico, oh, cazzo di demone, metto l'acqua, poi dico, oh, cazzo di Babbo Natale, copi, merda. È giorno o notte, se si capisce. È notte, no. Cioè fuori è notte, nell'hangar ovviamente. I demoni infernali! Buonasera, sono Mimì e questi sono i miei compagni di avventura. Fossi lei, signorina Mimì, caricherei quel mitragliatore che tiene in mano. Lui con questa voce totalmente assurda, perché vi aspettate una voce profonda, cioè invece ha questa vocina tipo normale, molto carina e coccolosa e gentile, dice, no, ma so esattamente chi siete. Mi presento, io sono l'elfo di Babbo Natale. Ammazziamo. È un cazzo di demone. Ma Babbo Natale non esiste. Avete presente gli elfi, quelli che costruiscono i regali, li impacchettano per Babbo Natale, li distribuiscono? Tu dici Babbo Natale non esiste. Io dico Babbo Natale non esiste, io non ho mai ricevuto un cazzo di regalo dai miei genitori. È per quello che vi ho portati qui oggi. E vedete, sono molti anni che Babbo Natale non esiste. E io sono qui per darvi una missione incredibile, ritrovare Babbo Natale. I funghetti hanno davvero... Sono anni che chiedo anche io il patriarcato per Natale, mai arrivato. Voi siete stati tutti raccolti perché siete nella lista dei buoni, o meglio, lo eravate quando eravate... Io alle parole di Scio carico... Siete i più buoni della vostra generazione. Alle parole di Scio sul patriarcato carico il mitragliatore. Vabbè. Devi sparare quello. Quello grosso. Ma quindi lei quello grosso non mi ha fatto niente, mentre questa persona continua ad insultarmi. Quello grosso è molto spaventoso. Nel suo regno si vive bene? Sono qui? No. Sono scappata perché erano tutti degli idioti che volevano spiegarmi come vivere. Mi scusi, signor. Oh, grande demoniaco. Volevo dire elfo di Babbo Natale. Dove siamo esattamente? Una volta erano come me, non come quelli che vedete. Quelli che vedete adesso in televisione, neri, con gli orecchi a punta. Come? Bella citazione. Dove siamo? Mi scusi, ma non capisco. Come? Dove siamo? Siamo al Polo Nord. Cioè, non il Polo Nord che conoscete voi, il Polo Nord interdimensionale. Infatti, vedete tutti da diverse dimensioni. Vedete, ci sono diverse dimensioni, ma c'era un unico Babbo Natale, che ora non c'è più. Che fine ha fatto? Interessante. L'ha mangiato quel bastardo! Cosa? Signore, non sta sta benissimo. Non è che avrebbe una camomilla. Sì, lui ha qualcosa da dare. Signorina Emily, mi starai. Dicevate? Io non ho detto niente. Ho detto qualcosa? No, questo Polo Nord è interdimensionale e c'è un Babbo Natale solo che è stato rapito. Sì, che porta i regali a tutti. Sì, di tutte le dimensioni. Sì. Ah. O meglio, lo faceva. E come... Poi purtroppo, sapete, è arrivato il consumismo, le persone hanno detto no, i regali li compriamo e quindi Babbo Natale poi si è spento. Spento, è morto? No, dovreste solo trovarlo e chiedergli di ricominciare a... insomma. Oh. E perché noi dovremmo fare questa cosa per lei? Ecco, allora, su perché io speravo che... cos'è questa cosa? Beh, sì. Io mi immagino così. Sì, più o meno. A vedere? Ma anche il cappellino di Natale. Io lo immaginavo come una serie di tentacoli con... No, è un tentacolo e basta. È un tentacolo, ok. Con il cappellino, vale. No, vi volevo dire, io speravo che accettaste questa missione perché siete i buoni per lo spirito natalizio. Però se non avete spirito natalizio, c'è un premio. Non abbiamo, c'è un premio. E se lo abbiamo invece... Se non abbiamo spirito natalizio, c'è un premio. Se lo avete, il premio è molto maggiore. Potete essere assistenti di Babbo Natale, aiutarlo nel Natale. Però se non lo volete, c'è un premio. No, lo voglio. Sembra una cosa molto interessante. Sai che se Babbo Natale, ti... fotografiche, faccio una foto. Se Babbo Natale ti vede, io l'infarto, Cosa? Dico, è multidimensionale, probabilmente Babbo Natale ha visto cose che voi ma magari è così Babbo Natale. Esatto. È molto probabile, magari mio cugino. Clic, faccio una foto, ricordo. No, non può essere così schifoso. Non può essere così schifoso. Se Babbo Natale esiste sicuramente, intanto non è nero come quella merda lì davanti. Siamo già arrivati. Gli enti sono tutti neri. È un po' razzista quello che no, cazzo di debole. In realtà sono uno, pare, però storia lunga. Cosa? Negli anelli del potere c'è un unico. Il naso a punta e vedete lui ha il naso tipo da maiale, da ogre gigante. E hanno tutti il naso a punta, le orecchie a punta, i capelli lunghi, lui è chiaramente pelatissimo. Io sono un elfo, Tipo me? No, è un elfo di Natale lei, signore. Ah, però sono un elfo scuro. Ancora, ma che è sta roba? è sempre del cazzo. Cagliarle. La vignetta natalizia. Unspeakable Bolt of Doom. Quindi ci state? Andate a trovare Babbo Natale? Beh, sì! Ma aspetta. Ma è l'unico modo per liberarci, immagino. È chiaramente folle. Se questa cosa vi permetterà di stare un po' lontano da casa, perché no? Vedete, noi portiamo i regali a tutti, quindi portavamo i regali a tutti, abbiamo anche i mezzi per riportarvi a casa. Molto interessante. Ma perché noi? Mimì la principessa del Perché noi? Perché eravate i più buoni della vostra generazione, nella lista dei buoni. Dobbiamo ucciderlo, dobbiamo ucciderlo. Era poi un tablet completamente fatto. Al massimo avrei dubbi su di lei. Beh, devo dire che sono universi fottutamente fottuti, cazzo. Lui ha fuori questa sorta di iPad completamente rotto. C'ha tutte le scintille che escono e fa: guardate, vedete? Nella lista dei buoni. In realtà non vedete un cazzo perché è tutto tipo di... Ok. Pare che non abbiamo molta scelta. Secondo me questo è un manicomio, sono abbastanza convinto. E lui non è un elfo. Io comincio a pensare che lui ci abbia dato qualcosa a tutti, che sia un bel trip per tutti. Sì. Beh, devo dire che io prima di vedere tutti quanti voi mi sentivo comunque abbastanza strano. Invece adesso stai da Dio. No, io guardo gli altri e parlo a voce bassa, ma non troppo, insomma, come se cercassi di non farmi sentire dall'elfo, ma se poi mi sente chi se ne frega. È tipo vabbè ragazzi, credo che vadano assecondati i tipi strani come lui, meglio non farli arrabbiare. Va bene, l'idea che... mettiamo caso che vogliamo trovare questo fantomatico Babbo Natale del tridimensionale. signore elfo di Babbo Natale, così con la da maiale. E allora, per trovarlo in realtà è facile. Abbiamo l'ala slitta e vedete che c'è qualcosa che trema sotto il telone. Okay. La slitta con le renne, no? Chiaramente. Sì, chiaro, ovvio. Caricato io una lista dei più cattivi, nella lista, quelli che erano nella lista dei più cattivi, e vedete, l'ho vista in questo tablet, sempre la cosa tutta spaccata, e l'ho caricata sulla slitta, e quella vi aiuterà a trovarli. Probabilmente sono stati loro a rapire e far scomparire Babbo Natale. Quindi dovremmo ammazzare questi cattivi? Portare all'inferno con noi! Che ha parlato di uccidere, ehi! No, dovete solo ritrovare Babbo Natale. E quindi sotto quel telone gigantesco dovrebbe esserci una slitta? Sì, vedete, vi faccio vedere, si avvicina, tira via il telo, sì. Vedete che c'è questa slitta bellissima di tipo Babbo Natale, quelle classiche, no? Una slitta gigante, tutta rossa, con tutte le cose, e davanti vedete che praticamente è trainata da questa sorta di ratti giganti che hanno delle corna finte sopra, sapete il cerchietto? Per Ma perché? Vedete? La slitta con le renne. Le renne? Sì, quel coso vola. È dimensionale. E dovrebbe volare. Quelli sono dei topi, dei ratti giganti con un cerchietto in testa. Su questo sono d'accordo col signore. Come minimo il Babbo Natale che ci sta cercando di mandare, a mandare a cercare, è Satana. Mio babbo, il mio più grande amico lui era, non dovevo dirlo. Bagianato. Quella è della Marvel quando prende il guanto di Thanos e rompe il culo a tutti quanti gli altri personaggi. Bene, andiamo. Mi sembra quindi andate? Grazie. Allora è già tutto caricato, dovete solo salire e fare tipo con sulle renne. Okay. Quindi quella cosa vola. Sì. Quante renne servono per vola tra le dimensioni? Quante sono le renne? Avrei preferito il mio elicottero. Scusa, tu hai un elicottero? Un elicottero. Qual è il minimo di renne per far volare questa cosa? Fratello, chi non ha un elicottero al giorno d'oggi? Magari l'elicottero si può portare in salvo da questo posto. La signorina mia ha detto che ha un elicottero. Un elicottero? Andiamo! Dov'è? È un elicottero meglio della slitta. Cosa? Non credo, non credo. Ma se ci metti credo sopra la slitta... Perché non vada tra le dimensioni. Ma questi topi sì? Queste renne, certo. Beh, sicuramente quello che lui prende lo fa andare tra le dimensioni. Vabbè, vogliamo salire su questa cosa? Sì, chiaramente le donne non guidano, quindi chi guida? Vabbè, lei questo è il nuovo codice della strada, adesso ti vedono. Vai pure. Io ho 120. In realtà no, perché è completamente devastato, quindi col nuovo codice della strada. Io ho 172. Io ne ho 172. Guido io. Il giovane. Aspetta, fumo una cosa veloce per ricalmarmi. Comunque io sto guidando. Ok, ci sono. Guido elicotteri. Guido auto da corsa. Tu hai gli elicotteri, ma guiderà qualcuno per te, ma non ti sporchi le manine. Sicuramente. Tu guido anche io, farò selezioni, certo. Quindi, ti sentiresti di guidare questo? Perché no? Proviamo. La principessa Mimì che guida la slitta di Natale, ce l'avevo. Stai forse dicendo che le donne non devono guidare. Esattamente quello che ho detto, però faccia così Mimì. Però intanto che tu guidi, tengo io quel mitragliatore pesante che hai in mano. Non vai a toccare le armi a Giulio. È qualunque situazione. Non può guidare una renna. Il mitragliatore sta nelle mie mani mentre guido, sta di fianco a me. Dietro, per collo. E non ti metti la cintura. Quindi? C'ha la cintura. Guida Mimì. Beh, no, non c'è la cintura. Salgo e mi allaccio la cintura di sicurezza. Non c'è. E scatto una foto. Un selfie. Vabbè, ci sediamo, saliamo e facciamo guidare giù e Mimì, la principessa Mimì. Ma quanto vola in alto questa cosa? Ma non vola, andremo via terra, figurati se cosa? Vola. Tiro un dado a 100. Un pochino divertiti. Se siamo fortunati si schianta. Ma e questo sogno finisce. 8. Potrebbe essere uno sogno. Ah. 27. 8 hai detto. Allora vediamo se c'è sempre con di 100. Sì. Ok, allora fai tipo, dai tipo la frusta, no? Mm-hmm. Cioè la diciamo con le renne. Okay. Vedi che le renne non si muovono in realtà, ma praticamente è come se tutto si distorcesse. Mm-hmm. Quando vedete tutto come se fosse in un film anni 70, tutto da fatti, da film anni 80, oh, tutti fattoni. Ora riconosco. È a caso lui. Ora riconosco. Cominciano ad alzarsi, le renne, i topi, e a camminare. Nel vuoto, quindi, diciamo. E vedete che tutto scompare. E prima di riapparire in qualcosa di definito, cominciate a sentire dei clacson, delle, diciamo, dei suoni, delle gomme che fanno attrito nelle curve, eccetera, eccetera. E vedete che voi siete in mezzo a quella che sembra un'autostrada gigante e state palesemente intasando la corsia, perché i topi vanno pianissimo. E quindi sentite uno... Ma dove cazzo hai parcheggiato? Siamo neanche guidata, capito? Non è colpa del guidatore, è colpa dell'autovettura in questo caso. Battuti cliché. Siamo in un mondo. Andate, muovetevi, coglioni. È colpa dei topi. E rifrusta, dai. Tu non le dici riparti. Niente, scusa. Non io so, capito, ma il mondo adesso sembra un mondo reale o è sempre un po'. È un mondo reale, è come se fosse un'autostrada gigante sul niente. Ma di automobili. Però le macchine che vedete intorno sono macchine vere. Ma ci sono solo macchine, non ci sono altre stronzate tipo la nostra. Macchine, moto. Sono macchine normali, tipo che vedremo per sì, dico, adesso. Non vediamo però una slitta con dei pesci. Tipo. Non vedete una slitta con dei pesci, no? Okay. Siete l'unica slitta su questa autostrada. Quindi vai piano, non ti fare influenzare da questi buzzurri. Un po' piano. Beh, sei l'unico che forse è nel suo mondo. Tecnicamente, cioè? Questa dimensione in cui siamo capitati ha senso che sia la tua. Perché è posseduto? Povera, io so. Normale persona, perché? Solo che è posseduta. Però completamente pazza. Se è un'autostrada con le automobili, di certo non sono io. È un'autostrada sul niente. È un'autostrada sul niente, non è un'autostrada. In che senso sul niente l'autostrada? C'è un... Ecco, allora, vedete che l'orizzonte è come fosse uno sfondo blu. Ah no, okay. Non avevo capito questa cosa. Non è che siamo... È casa tua! Non siamo nella pianura estense, che in quel caso sarebbe solo luogo. Okay, c'è una piazzola. No, cioè, allora, vedete che l'autostrada continua parecchio, e in fondo all'autostrada in effetti c'è qualcosa, però è molto molto lontano. Ah, fregatevi. Falle volare! Falle volare queste renne! Falle volare! Falle volare! Io faccio il dito medio a quello dietro, ma mi nascondo un po'. Dai, lui vuole la rissa. Falle volare! Falle volare! E intanto ti supera, ci provano a superare. Falle volare, dai! Falle volare! Sanno volare, ha detto. Ha capito? Dimmi che non si sentono, evidentemente. In falle volare! Provo, cioè, tipo a muovere anch'io le redini a vedere se fanno qualcosa. Tipo la spintone, dico falle volare. No. Ok, fammi una prova di interazione. Cos'era? È una delle caratteristiche, se questo che ti chiedi. Sì. Chi è interazione. Allora, le prove funzionano così: tirate un dato da 10, 6 o più è successo, meno è in fallimento. Ok, ho anche un più 1, quindi facciamo un bel 8 totale. 8, quindi è un successo. Vedi che le renne topi ci guardano intorno e impauritissime, però nonostante tu li stai frustando, queste cominciano a ripartire e vai a una velocità normale. Visto? E quindi, state un po' sbagliando, perché comunque una slitta non ha le ruote, però state andando nella corsia. Oh. Vedi che non sei così capace di guidare come dicevi, Mimi? Urlo ai topi, segua quell'auto! E partiamo verso... Ma nella tua epoca non so cosa... Sì, hai ragione, bravo, hai ragione. Sì, effettivamente per me... La maggior parte di noi non sa cos'è un'automobile, giusto? Scegli te? No. Appunto. Io sì. Sì. Io ne ho un. Io sono un mago, però anche tipo un Walkman, una musicassetta. Ah sì? Sì. Ah, qui c'è un mago... Ok, in un'epoca moderna comunque. Sì. No, io immagino una cosa medievale, quindi non lo so. Anche io sembro molto mezzo americano. Allora, mentre andate, quello che sentite è che la slitta comincia a fare un tipo un tintinnio di campanelle tipo natalizie. Fa tipo tin tin tin tin tin tin. Eccoci a destinazione. Siete arrivati a destinazione. Il vostro obiettivo Boblin è qua vicino. Chi è il nostro obiettivo? Boblin. C'è la lista, okay. Ma la voce da dove esce? È tipo, sai le vocine, gli annunci di servizio. Hai una voce nella testa tu. Un'altra. Questa è nuova. Ma abbiamo una ecco lista. Ecco che si avvicina dietro di voi. Sentite da lontano una moto tipo gigante, tipo Harley Davidson. E vedete sopra quella moto una sorta di piccolo goblin con il casco a scodella. Ehi, coglioni! Avete le ruote! E dietro di lui ci sono altre moto, tipo gang motociclista. E tutti loro hanno tipo una sorta di disegno sopra, The Boblins. Da dietro, e vanno tutti dritti e vi superano e cominciano ad andare lungo l'autostrada. Vi faccio una foto col flash, così sembra un autovelox. Ok, provo a tirare su. Non ho capito, questi stronzi devono ucciderli. Interazione, fermarli e capire se sono stati loro a rapire Babbo. Cosa devo tirare? 2 di 6? 1 di 10. Quindi questi scialla sarebbero i primi sospettati rapitori di Babbo Natale? È uno dei. Sì. 0 più 1, 11. Ah, sì, allora è un successo incredibile. Tu praticamente spari con la macchina fotografica al flash, vedi che per puro caso il tuo flash rimbalza su una sorta di uno specchietto davanti a te e spara in faccia proprio a Boblin. E Boblin vedi che inchioda, tutti i motociclisti dietro inchiodano tipo sulla ruota, si gira e fa: tu, coglione, cosa hai fatto? Guarda minaccioso. Poi voi continuate ad andare, allora lui rallenta e vi affianca, e quindi è di fianco a voi mentre voi state andando in autostrada. Signore, stava andando troppo veloce. Ci sono il limite dei 75 parsec orari. Scusate, da dove esce il suono? Lui ha una bocca, non la vedo. È lì tra i due pixel, forse. Ne posso avere diverse, ma non è importante. Signore, dicono che sia stato molto cattivo. Cattivo. Saprebbe per caso condurci dal posto in cui si trova il signor Babbo Natale? Chi cazzo è Babbo Natale? Questa è un'ottima domanda. Stiamo cercando di rintracciare la sua collocazione nel multiverso per portarlo in salvo. Ehi ragazzi, avete mai sentito un Babbo Natale? E tutti: che cazzo è il Natale, capo? Non lo conosciamo. Tirano fuori tipo delle... Tutti loro tirano fuori delle sorte di... Mazza frusta. Macete. Macete. Individui i casi che mi ha trovato. Cazzo. No, nessun Babbo Natale, dico, ma un ciccione di merda invece vestito di rosso con la barba bianca. Onesto. Ciccione vestito di rosso. E chi sei tu, ragazzo rachitico? Ragazzo, lo dico qualcun altro, io ho 120 anni. Rachiti, secco, io avrei detto secco, però... E se guardi, guardi questo libro qui, se lo leggo in maniera un po' antipatica, faccio esplodere te e tutti gli altri stronzettini col macete. Capo, il coglione sta parlando forse di Krampus, ti ricordi una volta quello lì che portava i doni per finta? Ah, sono dei bambini, non lo vedi? Ehi voi, siete forse dei bambini? E vedete che lui tira fuori, invece che un macete, una sorta di pistola tutta d'oro. Ma è meglio se vi levate dalle palle. Non so se hai visto cosa la nostra mi tira fuori il mitragliatore. Quella è una pistola, questa è una pistola. Dai, spara. Dovete tirare iniziativa perché la cosa si sta un po' scaldando e lui vi spara se voi non avete un'argomentazione. Per tirare iniziativa tirate sui riflessi. Io mi nascondo. Madonna, mi faccio stare. Sempre dato da 10. Sempre dato da 10, sì. Ah, da 10. Tu guarda se dei gentiluomini come noi devono finire a fare a botte con questi scappati di casa. Cazzo, 10. 5. Dai. Sempre dato da 10? Dato che diamo noi 10. 8. Ah, meno riflessi, meno riflessi. 7 allora più. Io 1. Riflessi ho fatto 6. 1 più 0 1, voi iniziando io il fight. Allora, quindi 7. Chi manca? Scusate che non ho. Allora, chi ha 10? Io. Purtroppo. Poi io ho fatto 7. Io ho fatto 6 meno 1, 5. Quindi Sceo, Vez, Marco 3, Giulio e poi Mattiel con un bel 1. Oggi tiro 1. Qualsiasi dadi mi date, anche se mi date il dado, manca Cthulhu. Ma voi quanto avete il movimento? No, io ho fatto 6, però chi mi vede subisce meno 1 a tutte le prove, quindi vuol dire che io prendo un più 1 e voi tenete i vostri risultati più o meno. Quindi il primo che comincia è Sceo. Sì, ma quindi lui mi spara? O sta per? No, no, lui ha solo tirato fuori la pistola. E vedete, vedi che di fianco a lui ci sono altri 6 motociclisti col macete. Sono tutti goblin. Hanno questa moto gigante con tipo i pennacchietti, le nappine. E dietro di loro hanno questa sorta di giaccotto di pelle con scritto The Boblins. E sotto c'è il loro simbolo, che è questa testa di ragazza mozzata. Ok, Verona. Prendo la mia balestra e la tengo. Provo a parlare, non voglio attaccare. E la tengo tipo rivolta verso l'alto, come a dire: non voglio attaccare. No, faccio tipo vedere, sono disarmato. E dico: belli i vostri cavalli d'acciaio, interessante, il mio destriero. Ah, no, scusate, non è una donna con la testa mozzata, ma è. No, scusate, ho sbagliato. È una. È una sorta di presente la testa del camion, la parte del tir, sì. La motrice, senza i container dietro, sì, no? La motrice, parte iniziale, sì. Esatto, e il simbolo è la donna sulla testa mozzata è sulla portiera di questo della motrice, ok, disegnato dietro, ok. Inserisce, scusa, e dico: belli questi destrieri d'acciaio, mi farebbe molto comodo uno di questi. Sì, ma non litighiamo, dai, anch'io faccio parte di una di gilda proprio come voi e capisco le dinamiche di gruppo. Noi non siamo i vostri nemici, voi non siete i nostri nemici, nessuno vuole dare fastidio a nessuno. Diteci solo dov'è quel ciccione che stiamo cercando e ognuno per la sua strada. Allora, fai un tiro di interazione. 10. Minchia, 100 però. Tu sei il truffatore? Sì. Lui in realtà non ti... Ah no, e voi altri volete fare altro? Perché intanto poi... Beh, sono minacciosi comunque, ha la pistola, gli altri macete, gli faccio vedere che anch'io ho l'arma, ma come sì, dai, regà. Sentire però, cioè, ancora il turno di Sceo, no? No, voi volete fare altro, perché lui in realtà è molto dopo l'iniziativa. Lui, se vuoi fare quello altro, che mi risponde, no, finché stava parlando, no. Ok, allora lui in realtà, per quanto mi infastidisce molto la testa mozzata, però mamma sta femminista. Lui la pistola non l'ha ancora sparato. Il tuo tiro ha successo, quindi lui tentena un attimo e ti dice: ma che genere di gang? Non credo siate come la mia gang. Qui c'è solo un Bobby. Ti piacerebbe far parte della mia gang? Che nome strano, scusate. Ma lascia stare, questo è un altro discorso. Noi non servono i simboli e le cose d'acciaio finte che usate voi. Ma non lasciamo stare. Simbolo, non... idiota. Questo è il mio brand, idiota. È il mio marchio. Brezel, non ho capito cos'è. Azienda, non so. Oh, brede, cazzo! Parli una lingua strana. Io vedo solo un vessillo che io non avrei usato, anche perché non capisco cosa c'è disegnato sopra. È di cattivo gusto, veramente. È molto meglio. Guarda, per una volta do ragione a lei. Sicuramente anche lei è d'accordo con me sul vessillo orribile. Sei d'accordo? Visto? Che ma lasciamo stare queste cose. Come ti ho detto, capisco le dinamiche di gruppo. Fai pure il grosso davanti ai tuoi. È giusto che tu faccia così, però. Non è la nostra battaglia e non è la tua. Ti ripeto, dici dove dobbiamo andare e noi ci andiamo. E chiaramente non è questo. Dovete uscire dalla mia cazzo di strada. Ok, innanzitutto non so perché siamo qui a guidava lei, però questo è un altro discorso. Ma ok, usciremo dalla tua strada nel momento in cui ci dirai gentilmente, davanti anche a due signore, qua si mette dove dobbiamo andare. Beh, in sala, quando, se vedo che il dialogo prosegue ancora un pochino così, senza, diciamo, che si giunga a una conclusione, sì, interverrei. Però dimmi tu, perché ci sono... Vai, diciamo, no, no, vai. Dopo io sono l'ultimo, però, eh. Ma anche lui. Ah. Fatto uno. Ok, allora mentre lì che rompe il cazzo nella mia strada, eh. No, vado che dobra! E faccio un incantesimo. Cosa fai? Faccio un incantesimo. Che ne ho uno di secondo livello che si chiama esplosione di fuoco. Era più leggero, vada che d'avro, forse. Palla di fuoco, vabbè, sostanzialmente. Perché Arci è sempre Arci? Dove iniziano io i combattimenti? Ah, no, me lo hai chiesto. Cioè. No, no, Io sono l'ultimo. Lo dico tra me e me. Cioè, mi dice che spendendo un punto. Cioè, all'inizio gioco conoscendo due magie di primo livello che sono Charm e Luce. Forse devo usare Charm. Vabbè. È un incantesimo di secondo livello che è esplosione di fuoco, che mi sembra più convincente. È di secondo livello, è meglio usare questo. Cioè, usare Charm e nuvolare. Usare palla di fuoco su tutti. Usare Charm e convincere i goblin a spaccare tutto con la palla di fuoco. Non ho capito. Devi spendere qualcosa? Un pix. No, dice che spendo un pix per ricaricare l'incantesimo usato. Ah, ok, quindi la prima volta lo usi. E puoi utilizzarlo come azione gratuita. Ricordati che sarà da ricaricare. Quindi. L'esplosione di fuoco. E si chiama, hai detto? Esplosione di fuoco. E sai già cosa fa? No. Cioè, il nome un po' mi aiuta. Scusa, però, cioè... No, beh, Sally, non lo so, io me ne sono immaginato una specie di mezzo lanciafiamme. No, però mi ricordo che... L'incantesimo effetto, che, i vostri ratti diventano blu. Che tu, giocatore, 5 minuti fa mi hai chiesto, ma dobbiamo ucciderli, io non lo so, vediamo come va. Esplosione di fuoco! No, visto che stavamo per la parlando. Risposta era sì. Risposta era sì, esatto. Del resto tu non vedi mai come vanno le nostre sessioni in Baldur's Gate. Ok. Ho lasciato prima spazio di vero. Al contrario che in Baldur's Gate. Che vengono spesso interrotti di altri. Se le cose, se questi continuano a parlare, faccio... Scusi. Effettivamente era un po' una fase di stallo, sembrava quasi infantile. Andate via, no, voglio sapere. Sì. Quindi ci stava di sbloccarlo. Ah, qua due magie. Ah, è magia, non è incantesimo. Beh. Scusate, è che il libro è, sono solo tabelle, quindi non è semplicissimo. Quindi tiri e vedi come va, anche in questo. Eccolo qua, allora, esplosione di fuoco. Domanda. La slitta è di legno. 2 di 10 in un'area di 5 metri. Ma noi che siamo prima iniziativa... Ma torno ad Arci o torno al nemico? Se vediamo che lui fa questa mossa, tipo... Vado a cadavere! E capiamo che forse potrebbe esserci qualche pericolo, ci possiamo tipo... Non so, spostare, lanciare. Eh no, cioè il turno. Lui è l'ultima iniziativa, quindi lui, voi tutti avete agito, tocca per quello che vi ho fatto tirare. Quindi fai 2 di 10 nell'area di 5 metri. Però, vabbè, non nell'area intorno a me, nell'area in cui tipo palla di no, fuoco. No, nell'area, in un'area a 25 metri, tipo una palla di fuoco. Ok, sì, allora vabbè, faccio in modo di colpire il Boblin. E tutta la gang, e tutti i passanti innocenti. Gli altri stronzi sulle moto. Ok. Tiro 2 di 10? Tira 2 di 10 danno. Beh, il gioco di ruolo è durato 12 minuti. Tanta roba. 6 più 6, 12. Nuovo record. Ok, il punto esperienza va a me, quindi te lo togli. No, non lo usa il punto esperienza. Eh no, aspetta, bisogna sentire. Ah no, lo usi solo per ricaricare, giusto? Hai ragione. Ah, se lo rubassi per un altro motivo, no, scusa. No. Allora, quello che succede è che la moto di Boblin, con Boblin sopra, esplode. E esplodono anche le moto intorno e quindi c'è, voi andate avanti in realtà perché non vi fermate e quindi c'è questa sorta di tamponamento a catena gigantesco di voi e noi non ci voltiamo come quelli fighi nei film, se ne vanno senza guardare l'esplosione. Sì, io mi voglio andare avanti uscendo l'esplosione. Un film mezzo Michael Bay con esatto. Sarà un po' difficile andare, e niente, esplodo tutto e Bobby non si vede. Io tra me e me sussurro anche: i destrieri di carne non esplodono. Finita c'è l'incantesimo, sala, faccio soffio sulla bacchetta. È proprio la bacchetta? No, la bacchetta magica. È la bacchetta, vado un po' di soldi. Soffio e me la rinfodero. Io mi volto guardando le spalle. E ripeto: ma guarda te, se dei gentiluomini come noi devono stare a discutere questi stronzi. Però sarà un po' difficile dovevamo informazioni. Sì. Era palese che non avessero una vaga. Ha nominato un Krampus. Krampus. Ha nominato, bravo. Sei attento. Sì. Non è qualche pillola strana un Krampus, no. Non che conosca, no. Allora, se non la conosci tu, potrebbe essere un crampo. Bene, Fritz, visto che sei diventato tanto bravo, conduci Guido, ma dove andiamo? Non lo so. Cosa? E loro ci porteranno al prossimo. Toppi renne, andiamo! E ridò un'altra frustata. Tira un dado da 100. Però col prossimo ci parlo io. 49. Toppi renne, non so come chiamarli. Tirano un altro. Sempre 100? Topi nani. 25. Bellissimo. Ride ogni tiro che facciamo. Okay. Non so se è un bene o un male. Non riesco a... Allora, stessa scena di prima, vedete questa sorta di deformazione tutta colorata, psicadelica. Sentite che il traffico scompare dalle vostre orecchie e arrivate, e quando riappare non sentite nessun suono, ma vedete di fronte a voi che siete nello spazio e davanti avete questa sorta di isola volante, tipo quelle di Avatar, e con sopra quello che sembra un club. Una discoteca. Beh, un rosso, il cinquantesimo. Oh, finalmente sono in vacanza. Aspetta, un altro rosso. Vabbè, io sono completamente sconvolto. Cioè... Ma noi Salla veniamo, cioè il nostro mondo di provenienza è la Terra. Ma ognuno sa la sua dimensione. No, voi viene un posto diverso. Ognuno sa la sua dimensione. Okay. Quindi diciamo che gli altri... È tipo una sorta di ricchi e morti. Ma il fatto, però, vabbè... Poi chi se ne frega, ognuno la vive come vuole. Il fatto che esistano le altre dimensioni è una cosa normale, boh, sti cazzi. No, beh, dipende. Dipende, tipo magari per la dimensione per me sì. Per te sì, per me no, chiaro. Okay. Quindi sì, io ho un mezzo attacco di panico per il momento e vado fuori uso perché non sto capendo che dove cazzo siamo, che cazzo ho intorno. Cioè... Boh ragazzi, se ho imparato qualcosa è che bisogna godersi di viaggi. Onesto. Bravo. Sono d'accordo, anche se hai provato a bastonarmi. Non credo parliate degli stessi viaggi, però... Vuoi qualcosa? No, posto così. Sicuro? Per ora cerco di rimettermi. A tranquillizzare no. Drizzt e... Chi è Drizzt? Sono Triz. Chi è Drizzt? Drizzt. Maledetto. Maledetto. Vi spiego che siamo ad un baccanale e potremmo riposarci. Anale? Che cosa? No, baccanale. Lo conosci? È una bacca nel culo. Si beve il vino e poi la gente viene sodomizzata. Quindi c'è la... Oh, ma è una principessa come te? Come fa a sapere queste cose? Non necessariamente in quest'ordine. Salla, posso fare una domanda? Certo, la Razzabur. Sì. Ho nell'equipaggiamento delle droghe che c'è scritto tipo per 4 e delle droghe per cui non c'è scritto niente, quindi ogni volta che io non uso una la consuma. Sì. No, ma quelle per 4 vuol dire che va per 3, per 2, eccetera, ma quelle che non c'è scritto niente? Le butto via. Tu quante merendine avevi? 6. Le 6 merendine? Ah, la confezione da 6, giusto? È onesto. Ok. E me ne ha mangiata una Mr. Hyde qua. Ma io non capisco perché dovrei usare le droghe per darmi dei malus assurdi. Sul serio? Sì, c'è una che mi stordisce per un di 10 round. Ma li dai agli altri, non a te. Non devi prenderle tu, devi darle agli altri. Agli altri. Non devi prenderle tu. Sei tossico, che vuoi. Vabbè, no, diciamo che è la stessa domanda che si dovrebbe fare. Tu te rimani, non rimane. E tu rimani. Beh, se la prendi tu, però la devi dare agli altri. Però ha inteso che la prenda lui. Beh, lo sciamano prepara le pozioni. Quando la palla di fuoco, non è che dice esplodi, cioè la fai... Sì, il bersaglio... Ok, vi avvicinate a questa isola e vedete che su questo club ci sono tipo le luci che fanno verso, che puntano verso il cielo e intorno, e sentite una musica sempre più forte man mano vi avvicinate. Che tipo di musica? Che tipo di colore? È musica dance. Io sì, io impazzisco, oh, tipo, ma che cos'è? Non è proprio del genere. Stammi vicino e lasciati trasportare dal ritmo. Quindi devo assumerle io le droghe. Devi assumerle tu, ma non ha senso, che hai un personaggio che si può solo fare. Devo farmi dei malus e con, prendendomi i malus posso ottenere dei bonus usando i punti esperienza. Ah, okay, vedi. Okay. Ma i bonus sono molto più scarsi dei malus. Però per averli devi avere i malus, se no sì, non puoi. Sì, ma i malus sono tipo... sono inutili. Beh, beh, però il bonus cosa fa? Ti però se tu non fai nessuna di queste cose sei ancora più inutile. No, ho un bastone, posso dare bastonate. No, allora... Ok, cosa ho fatto? Quindi stiamo arrivando da quest'isola qua, sui topi sempre, no? Sì, allora, la sinistra su questa isola c'è una discoteca. La discoteca. Entriamo nella discoteca. È un messaggio tipo quello di prima, ritraccia Sarah Connor. Beh, non sicuramente in una discoteca, ragazzi, ci sono tante persone. Questo posto mi sembra più normale, non meno inquietante. Io mi attacco a lui, magari ancora impaurito, e ti sto tipo dietro perché non capisco che cazzo sta le luci, la musica per un elfo poverino. Non sto capendo un cazzo io in questo mondo, mi aggrappo al mago, tipo aiuto. La gente ci va a ballare. Ma non è musica questa. Andiamo a vedere se è una roba buona. Andiamo a vedere se è una roba buona. Se hanno roba buona. Hanno roba buona, dai. Roba buona. Se c'è lì tu è abbastanza. Dell'idromele. Sì. Tipo. Tipo idromele. Sì. Angelo Azzurro. Polvere d'angelo, quelle cose lì, quella che pioveva prima, no. Per entrare in questi posti, braccetto lo sciamano e andiamo verso l'inglese. Per entrare in questi posti, però, bisogna essere accosta. Bisogna andare avanti le belle ragazze. Quindi ci fanno la scendere belle. Hai detto che siano belle, non lo sappiamo. Beh, sala, loro due sono belle. Vedete che all'ingresso questa Mimì è ovviamente le due come donne sono delle belle ragazze. Io non credo, e che ne sono? Vabbè, lei sì, effettivamente, anche solo come agghindata. Un po' sudaticcia. Ma magari è... sudaticcia. Sporca. Vabbè, magari è brutta. Sarà sporca di vomito quella. Ma tu quando non sei posseduta sarai anche chiavabile, no? E devi vederla da posseduta. Cosa ti pare abbastanza normale nel mondo. Cosa? Allora, quello che vedete all'ingresso sono... C'è la fila di cui devo sposare. Cosa che c'è una coda molto lunga di ragazze. Ah. E all'ingresso ci sono due buttafuori donne, ma bodybuilder, cioè sono veramente enormi. Dico, lasciate fare a me. Passo davanti, mostro una bustina di droga, un buttafuori. Perfetto. Possiamo passare? E allora la ragazza fa voi sì, voi due no, e indica le due ragazze e dice fate la fila. Mi sa che funziona al contrario. Funziona al contrario. Signorine, cazzo di patriarcato. No, è il contrario. Ma io sono abituato. Ma siamo con loro. Oh beh, io non ci tengo particolarmente. Sono con noi. Forse il problema può essere il mitragliatore, perché nel caso lasciamo il guardanotte. Ma poi io in armatura. E vorrei far notare che stanno per far entrare quello. Hai ragione. Vabbè, se vi fanno entrare, entrate voi e... Ma cosa dobbiamo fare lì dentro? Dico, signorina, vi aspetteremo qua. Abbiamo un nome, perché siamo qui? Cerca Babbo Natale o Krampus. Sì, ma dobbiamo... nella lista dei cattivi, qual no, è? Scusate, mi sono perso, guardavo dei manicotti. No, dicevo, signorina, se il problema è per questo mitragliatore che impara in braccio, la possiamo far lasciare al guardaroba. Sì, perché guarda il mitragliatore, in realtà, non è interessata al mitragliatore, dice semplicemente, voi donne siete con loro? Sì. Sì, sì. Ci conosciamo voi poco. Voi avete il biglietto? Quale biglietto? Ah, allora fate l'altra fila e vi indica tipo fuori dall'isola. Uso charm, Salla. Certo che abbiamo il biglietto. Noi dovevamo entrare, basta, subito. Ma tu devi ricaricare? No, posso sputtare. Per ricaricare devo usare questi. Io ho uno charm, una luce. Ah, di ognuno. Minchia, ma questi sono fortissimi, ragazzi, sono inutili. No, però aspetta, no, di quello di palla di fuoco non una sola. di quella di Charm e Luce ne ho due. Io per fare te devo usare, cioè, un hai due slot ed essere seduto, due volte Charm, sì, due volte Luce, o no, ne uno? Ne ho due. Hai due slot per ognuno? Ho due slot di primo livello, quindi posso anche usare due Charm. Tranquillo, Betz, anch'io sono uno. Uno di secondo livello, che però sono esplosioni di fuoco. Ok, Charm, va bene. Cioè, immagino che si funzioni come tipo D&D, no? Sì, devo tirare io. No, spero che funzioni. Ah, tu fai la tua magia, cosa succede? Io gli dico: abbiamo il biglietto, abbiamo il tavolo e siamo i VIP della serata. Vedete che, allora, una delle due la fai su una, immagino. Su quella con cui... quella con cui parlavo. Cioè, a meno che non sia ad area, non lo so come funzioni. No, qua, non cioè, è ad area. Peccato. Quella vi guarda, un po' confusa, e fa... ah, sì, potete entrare. Quell'altra, ma che cazzo dici? No, no, loro sono i VIP. E quindi vi facendo di entrare. Io mi rivolgo all'altra e faccio... stai anche bene. Stanno entrando i VIP. Va bene, quindi entrate. Anche noi, entrate, quindi. Entrate, passate avanti al guardaroba, non so se volete depositare qualcosa. L'elicottero può portare tutto, lasciando in guardaroba. No, non so, non fanno cenno alla balestra, tipo... No, non sì, mi frega assolutamente. Qua si chiama Bataclan come posto, puoi entrare armato. No, entriamo. Sì, entriamo. Andiamo in pista, okay, da ballo. No, io non capisco. Entrate e praticamente la prima sala che avete davanti è questa sala enorme, tipo discoteca. Voi entrate su una sorta di terrazzino, diciamo la tutta la balla proprio sotto. Vedete che c'è un sacco di gente, non tutte persone, anche animali, su bipedi o altre cose strane, che ballano. E in mezzo alla stanza ci sono questi uomini mezzi nudi che ballano su queste sorte di cubi. Ok, ci vuole un cazzo di drink. Vado a cercare un bar. Riesco a vedere se qualcuno spaccia. Così. Attenzione, attenzione. Vuole qualcuno spaccia? Riesco ad avvicinarmi a questo. Fai un tiro su interazione, però. Sì. Mi hai quasi ricordato uno che ci topola e dice: voi spacciate. Di solito. Cosa devo tirare per interazione? Direi di sì. Un di 10. Okay. Un di 10 ho fatto 9. Perché non avete aspettato che vi dicesse... Vabbè, ok. Cosa? Ce lo interrogheremo delle persone. Non ho capito. Allora, chi vuol cominciare? Il tizio che cerca i spacciatori, tira su interazione. È un di 10, giusto? Sì, è un di 10. 9. No, vai, perché ci portano da qualche parte, no? Siamo dentro così. No, voi siete entrati e basta, in realtà. Okay. Perché lo charm funziona solo sulla tipa. Allora, 9, ti distacchi dagli altri e cominci a fare due o tre domande. Non so se tu sei in realtà tu sciamano, non credo tu sia pratico di una discoteca. No, sono mesoamericano, sono tipo un capo tribù. Fai dei tentativi un po' goffi. Ma faccio davvero schifo a fare lo sciamano. Non attiri troppo l'attenzione delle persone. Quello che capisci è che in questa discoteca non c'è droga. No. A meno che non passi attraverso dei canali specifici del proprietario della discoteca. Ok, tu invece vai a prendere un drink. Io cerco un bar. Io vado con lei. Se qualcuno vuole venire con me. Vado con lei perché dico: ma certo, l'host è quello che sa sempre tutto. E allora vado. Cazzo, stavo di fare il barbione FM1. Vado in bagno, ti dirò di più, visto che sono un vero altruista. Ma vomiti normalmente, figurati. Ma sei altruista. No, visto io sono un truffatore. Vado in bagno, sei altruista. Sono truffaldino, ma il mio obiettivo è essere altruista. E no, cerco un bagno. Io seguo Trizzit. Ma sono Triz, allora, smettila. Quelli che vanno al bancone, dimmi. Una domanda: nella mia descrizione del mago dice sa tutto e ha visto tutto prima che fosse mainstream. Sì. Perché sei un hipster. Perché sei un hipster di merda. Ok, per quello, ok, vabbè. Ah, sei un magus dell'epoca. Magari a un certo punto ti accorgi di questa canzone, in realtà l'avevi già ascoltata quando ancora non era famosa. Cioè, ma questo era Fulminacci. Ah, ma dopo che è andato a Sanremo lo conoscono tutti. Ok. Niente, vado in bagno, tutti e due. Va bene. Allora, ti prendo il bar. Scusa. Il bar è un bancone molto grande, perché ovviamente la discoteca è molto grande. E davanti a voi vedete questa sorta di... cioè, non vedete da dove vi arrivano le bibite, ma vedete cioè o i drink, ma vedete semplicemente dei tentacoli che partono da una direzione che voi non vedete perché è molto lontana e che depositano cose sui banconi. Magari. Ma tentacoli simili al nostro compagno o tentacoli diversi? No, tentacoli del barman. Sì, non vediamo un barman che è, ma vediamo dei tentacoli che danno le cose. E io ovviamente ho chiesto un idromele, me lo servono. E ti viene servito, tu non l'hai neanche chiesto, però ti viene servito. Ah, anch'io ti posso avere un gin tonic. Dobbiamo pagare però. Non vi viene richiesto niente. Ce l'ha andato, vabbè, un drink sarà l'ingresso. Figo, io mi bevo un gin tonic allora, quello che mi danno. Un drink sarà gratis, no? Boh. Ah, in realtà la cosa assurda è che voi ovviamente conoscete dei diversi perché venite da posti diversi, però vi porta il drink come voi l'avete pensato. Vorrei parlare con l'oste. Dov'è l'oste? E allora vedi che il tentacolo davanti a te fa tipo cenno e indica molto più in là. Andiamo, l'oste è da quella parte, Emily, andiamo. Vai, fai strada. Comunque non si dice oste. Beh, chi serve da bere? L'oste, sempre. A posto dell'oste, porto da bere. Mi seguo. Potrà essere un barman o un barista. No, un barman. Barista. No, quelli stanno al cimitero. Lavorano in legno per fare le gare. No, barman. Barman. Droghe, qualcuno ha droghe, ti prego. Ok. Miscelano i cocktail, fanno cose. Tu sei fortunato, hai fatto 9, quindi nessuno ti viene a cucinare. Cioè, una cravatta per il... Non capisco, cocktail. No, tipo questo. Okay. E vedi un Apple Tini. Un idromele! È un idromele! Non è esattamente un idromele. È un idromele l'Apple Tini, certo. Ma non mi strani, però. Alla fine si beve, si fa per stare in compagnia e ridere insieme, giusto? Chiamatelo come volete. Vederla così. Comunque complimenti all'host. Spostate le persone, vi avvicinate verso il... vi addentrate sempre di più in quello che è la pista da ballo. Ok. E, quello che non vedevate prima è che in realtà molto dopo rispetto a dove siete, perché è molto grande questo locale, c'è una sorta di piattaforma sospesa con sopra quello che potrebbe essere il DJ, e vedete che da lì partono le luci, le voci, eccetera, eccetera. Ma di fianco a voi, avvicinandovi, vedete che c'è questa sorta di piovra, testa di piovra, tutta fatta di gelatina verdina trasparente, indaffarata, che si guarda intorno, mentre i tentacoli che partono da lei servono da bere. Ma come fa una persona sola senza strumenti? Com'è possibile? Che, da dove arriva la musica? Non capisco. Dalle casse. Le casse. È un sistema elettrico. Elettrico. Ignora sta cosa. Abbiamo preso qualche sostanza molto forte. Non so esattamente cosa. Ah. Grazie, sì. Ok. E oh, ma quello è una piovra, ma è verde. Verde, gialla, rossa. Che successo veramente? Io ho chiesto dov'è l'oste e la piovra che serviva i drink mi ha indicato una direzione. Sono andati là, siamo avvicinati a quella che è la piattaforma dove ci sta il DJ, che è una persona sola che senza strumenti fa questa musica, e per me è strano. Sì, anche adesso tu pezzo di Coca Zero che sei, no, solo per te. Sono pieno di è colpa tua, solo per te. No, la Robby segue la tua dieta e quindi è colpa tua. Questo sono per gli ospiti. E oltre al DJ vediamo quindi un altro barista piovra gelatina, giusto? No, no. Sì, lui era l'origine, cioè di tutti i tentacoli. Ah, tutti i tentacoli di tutti i banconi partono dalla stessa piovra. Quindi è lui l'oste. Esatto. Esattamente. È l'oste, quella creatura che vedi lì, è l'oste. E ci ha servito i drink senza che noi li chiedessimo. È un fenomeno, è bravissimo. Di tutte le cose è la cosa più strana, sicuramente. Se venisse alla nostra città, wow, sarebbe incredibile. È un po' strana come creatura, però andiamo a chiedere a lui informazioni. L'oste sa sempre tutto. Beh, vedo che non ti sei neanche offerto di offrirmi il drink, quindi per fortuna che ce l'ho offerto. Ma non li abbiamo lui. Pagati. Beh, insomma. Beh, ospitalità, alla strafiga, ovviamente li proviamo a offrire, ma gli altri chi se ne frega. Vabbè, ci sta. Capito. Potresti rapire questo osso e dargli una botta in testa in fretta mentre ha troppi tentacoli, vincerebbe lui. No, chiediamo le informazioni. Dov'è Babbo Nachele? Non gli abbiamo neanche chiesto i drink. Che cosa gli dobbiamo chiedere? Krampus. Ma chi magari è? È lui Babbo Natale, perché quelli sono regali. L'altra volta, quando ci siamo avvicinati a qualcuno, è partita la musichina che ci ha detto che eravamo vicini. Guarda che ha detto una cosa geniale. Ci ha regalato i drink. Magari è lui Babbo Natale. Ma lui non è con noi. Ma tu non sei con noi. sei in giro a cercare la droga. Io ero nella pista. In bagno c'è qualcosa, c'è qualcosa che mi stupisce particolarmente? No, è un bagno. Normale. L'unica cosa, c'è molta meno fila al bagno delle ragazze. Aspetta, okay. Il bagno degli uomini. Nel bagno degli uomini, quanti soggetti becco? Così. Nel bagno degli uomini? Ti metti in fila e stai lì. Va bene, abbiamo un nome. Non si capisce perché ci mettono tanto. Abbiamo questo nome l'uomo. Di Krampus. Separiamoci e ognuno di noi prova a sentire, esatto, se qualcuno conosce o Krampus o Babbo Natale. Ma prima non parlate con il bartender. Vabbè, ma anche col bartender. Sì, io vado dall'hostel. Io in bagno, però vabbè, tu vai dall'hostel. Io in bagno chiedo se hanno informazioni su Babbo Natale o su un certo. In bagno campus. Puoi attaccare bottone con quelli. Beh, mentre sei in fila. Vabbè, ma lì da bar chi siamo? Io Rizzet, te e sedia e lui e Bibi. Forse la sua vera forma. Vabbè, allora noi quattro, io dico, separiamoci, ognuno di noi prova cosa. Ci rivediamo qui tra mezz'ora. Io vado a cercare informazioni nel bagno. Vediamo un modo di trovare l'ora. Cos'è mezz'ora? Chi comincia di voi? E come faccio a sapere quando è mezz'ora? Dai, inizio io. E faccio, cosa faccio? Tiro in su interazione. Io vado in giro e chiedo, ehi, tu conosci Krampus? Vabbè, ma sei una donna da sola in discoteca, ci metti ma qua a quanto pare non è... Hai ragione, è peggio, è vero. Tira in interazione. Vai, potrei 10 più 0. Allora, avete socializzato più in questa sessione, di D&D che in 3 sessioni di D&D. 3. Allora, non solo. Ah no, tirate tutti, poi vediamo tutte le informazioni. Ok. 9. No, ma tu cosa fai, Giulio? Ero lì con loro, abbiamo detto di chiedere. Io vado dall'host. Ok. Però faccio 3 anch'io. Ok. E Arci? Io ho fatto 3 e io sono in fila al bagno e chiedo, oh Vez, ma sei proprio pisciato per cagare? Lui mi risponde, dico, che ne sai di Babbo Natale? Allora, di fatto la maggior parte di voi, la risposta media che ha sentito è grande festa, sono fattissimo, grande, la senti questa, eccetera. Anche l'unico che riesce a avere qualcosa di più, qualche informazione in più, è Giulio, anzi Miss, come si chiama? Mimi, che riesce a, diciamo, a parlare con una persona di tutte quelle che con cui è interloquito, perché tutte hanno risposto tipo, grandissimo, che le ha detto che il tizio sopra di lei era molto figo. Ok. In che senso sopra di lei? Quindi A e B. Sì, effettivamente, in che senso sopra di lei? Scusami, e c'è un attimo di... È un ballerino. Ah, sul cubo, ok. Ma no, perché? E due, che questa festa è incredibile e come fanno le feste in questo locale nessuno le fa. E scopri anche che questo bar in realtà è gestito da... che questo locale è gestito da una sola persona e che è anche il DJ. Grazie. Che è anche il DJ, il proprietario. Invece Sheo parli con la piovra che vorrebbe parlarti ma non sa la tua lingua. Magari come se lo chiedi. Devi pensarlo, magari lui te lo dà. Visto che prima avvicinandomi ho pensato a cosa volevo bere. Detto questo, Katta dove è andato? Giusto. Io ero con bravo. Ha avuto l'idea Emily. Emily ha avuto l'idea, separiamoci e chiediamo un po' di informazioni, quindi scegli tu dove andare e tira. Sono rimasta con Drezet. Va bene. E quindi siamo dalla piovra barman oste, sì, che non, però non parla la mia almeno lingua. Forse tu, tu sai tutto, hai girato il mondo. Sì, io torno, cerco di tornare a qualcuno di voi e dirgli le informazioni. Lui capisce la lingua dell'oste? non lo so, come fai? E soprattutto nel caso cerco di recuperare Emily perché sono preoccupata. Quindi io in bagno sala non sento la minchia, vero? No, in realtà la maggior parte della gente è ubriaca e sta sboccando, per quello ci mette tanto tempo. Ok. Ma gli uomini entrano in due alla volta in bagno, vero? Gli uomini, sì, dipende di che razza siamo. Un uomo! Sì, bravo, i maschi. Sì. E... provo a... Scusate che gli stereotipi questi. Beh, io, il mio personaggio è cresciuto in una società matriarcale, quindi in realtà per me è normalissima questa situazione. Ah, è normale, sì. Per me è normalissima. Quindi ci raggruppiamo. Prova a parlare. Aspetta che il Katta prova, Job prova a capire la lingua della piovra. Lui ha girato tutti i mondi. Provo a parlargli e vedere se... a comunicare con lui e vedere. Prova se varie capisci. Lingue plausibili. Sei mai stato qui, Job? Non saprei. Beh, tu ti chiami Steve? Non mi ricordo Steve Job. Interazione. Giusto. Niente, sì. Possiamo chiamarti Steve. Steve Job. Va bene. Job Setaton. Tu non sei esploratore? Sì, 9. Katta non l'hai capita, Steve Job. Sì, ho capito. No, no. Ridi allora, stronzo. Non fa ridere. Ma l'ha detta lui, se la diceva ci faceva ridere. Visto che si sta spaccando a ridere. Visto. Allora, tu capisci una cosa che il tuo compagno non ha capito, che è che in realtà il coso parla telepaticamente. Mm-hmm. Ah, ok. E quindi pensi a quello che vuoi dirgli e riesci a comunicare con il bartender. Cosa vuoi dirgli? Stiamo cercando Babbo Natale, lo sapresti aiutarci? Non conosco questo drink. non parlo la sua lingua, è un coglione. È una persona, non è un drink. Salla, è un coso che comunica telepaticamente. Se tu ripensi quello che vuoi dirti, riuscirai a comunicare. Tu, bene, conosci Babbo Natale? Non conosco questo drink. Vabbè, è come parlare con gli animali. Se tu parli con gli animali, non è... No, ma ci va a ridere tutta la prefazione. Se parli con il cavallo, poi riesci a capire che vuoi dire. È un viaggiatore intradimensionale. Porta regali alle persone buone e carbone a quelle cattive. E cosa serve portare regali alle persone buone? Noi provvediamo a tutti i desideri delle persone. Vieni magari qua. In questo universo, in altri posti sono meno fortunati. No, vengono da tutti gli universi in questa discoteca. Questa discoteca è la discoteca. Infatti vedo, è molto bello. Mi piacerebbe passare un po' di tempo qui. Ma purtroppo non tutti si possono permettere il biglietto d'ingresso. Nel frattempo io vedo nel frattempo io vedo Job tipo in trance fermo che fissa la piovra. No, lui sta il barista sta lavorando, sì, e Job è lì così. Tipo Job, tutto bene? Sì, stiamo chiacchierando. Ma se cerchi una persona che porta doni e esaudisce i desideri della gente, tu stai cercando quel tizio là e vedi un altro tentacolo che indica verso il DJ. Ok, grazie. Posso andare a parlare con lui? Sì, il capo parla con le persone. Grazie, mi puoi introdurre? O dirgli... No, sto lavorando. Ah, scusa il disturbo allora. sai se c'è un modo che gusti ha dei gusti particolari il tuo capo? Cosa gli portiamo un bambino, che cosa stai dicendo? Ah, a posto, grazie. Allora vado a desiderare di parlare con lui. Allora, ok, vuoi qualcosa da bere? Sì, che cosa hai di buono? Quello che vuoi, esaudisco tu. Giusto, non è il tuo capo. Io lavoro per il mio capo. Hai ragione. E bene, cosa fa un polipo per una progenie cosmica? Sembra una barzelletta. Un cosmopolitan. Sale e ti vomita qualcosa tipo di gelatinoso davanti. Grazie. Che sembra però per te molto buono. Lo assaggio. Ed è buonissimo. E poi vieni in bagno. Come te lo faceva la mamma. Il cosmopolitan di mia madre. Ottimo, grazie. Okay, allora, Voi altri non avete allora trovato tante altri indizi, se non che sono tutti felici, pure quelli che sboccano in bagno. Sembra quasi che ognuno abbia la canzone, la serata, il partner, quello che vuole. E nessuno vende festa. Droga, quindi deve essere qualcosa nei drink. No, no, lui no. Tu hai visto che la gente vende droga, ma deve passare necessariamente per i canali del gestore del locale. Ah. Devo parlare okay con sto gestore, raga, chiunque questo sia. Ok, vado dal gestore. Spiego a Drizzt la cosa. Appunto, diciamo, dobbiamo desiderare andare dal DJ e desiderare di parlare con lui. E lui esaurirà il nostro desiderio. E come fai a saperlo? Me l'ha detto il polpo. Quando? Il polpo host. Ma non capisce la nostra lingua. Qui. Ma lui parla direttamente dentro la tua testa delle persone. Il polpo comunque si chiama Tentacle Terry. Grazie Tentacle Terry. Io ti ho visto questa cosa qua, raga. Poi. Oh, sì. Vedi? Io ci ho visto tanto questa roba qua. L'ha inviata su dopo. Sì, sì. Bellissimo. Per me è tanto stata sta roba qua che lui in realtà ti serve la solita merda letteralmente in realtà che schifo, sì. Io non vedo l'ora di entrare in una scena e fare pace tra i mondi. Okay. Allora sì, noi andiamo, vieni Drizzt, andiamo dal mi chiamo Trizdo Urg, è il mio nome completo, va bene? Se vuoi chiamarmi Trizzt Dordurian. Ha complicato la cosa. Non ha il palazzo, cioè non ha. Ah, ti mancano delle parti anatomiche per poter pronunciare il mio nome, forse. Può essere. Sì, il cervello. No, dipende di pronuncia. Vado dal logopedista da quando sono nato, 10 milioni di anni. È lo stesso logopedista da 10 milioni di anni. È molto bravo, io non lo cambierei forse in te. Oppure no. È molto molto bravo, sì sì. Va bene. Qual è l'orario di chiusura? Del locale? No, di stasera. No, di stasera. Sessione. Io non ce li ho gli orari, quindi mi attendo agli anni. Possiamo andare anche un po' più avanti. 11:30 sicuro. 11:30 è tipo adesso, Arci. Io non so chi deve lavorare, io domani non lavoro. No, vabbè, credo sei solo Vez. No, io non lavoro domani. Nessuno lavora domani. Sala non lavora mai, quindi... Possiamo andare avanti. Catta lavori domani. E intanto andiamo. Domani. Allora non lavora nessuno. Io solo pale mattina. Che è un po' lavoro alla fine. Io dovrei andare a correre. No, era giusto per regolarmi su cosa fare. Fiero di me, ho migliorato la mia dieta. Faccio mezzanotte e mezza, dai, la volete fare? Sì, dai. Vai, andiamo dal DJ e desideriamo di parlare con lui. Ok, allora come si sente sulla stessa forma? Desideriamo di salire sulla stessa forma. Io so se è il contrario, lo sto coprendo. No. Perché è una piattaforma che c'è sopraelevata. Sopraelevata. Cioè, semplicemente c'è il DJ lì su. Ah, no, non è che fluttua però. Sì, fluttua. Fluttua. Ah, cazzo. No, aspetta che per me cambia. Tu hai una cazzo di balestra. Spara. Coglione. Ma perché dovrei sparare? Non si spara DJ. No, poi spari un rampino e ci andiamo su. Spara DJ. Ah, ma non possiamo desiderare che venga giù. Desidera. Quindi devo desiderare qualcosa e lui lo capisce? No, credo che funzioni così col barista. Ho appena provato, ma non ha funzionato. Aspetta, prova a chiedergli un brano. Vai. Lo sto facendo. Non ha cambiato canzone, ma quello che sembra riprodurre le casse è una canzone che tu hai sentito nelle tue terre in una serata in cui eri particolarmente felice. Visto, ha cambiato canzone, funziona. Voi non sentite cambiare canzone. Ma cosa stai dicendo? Ma non senti? Questa è... Ma qualche... la ballata del cavaliere qua stanco. Qua sostanzialmente è una mega orgia gay, giusto? Ho capito cosa? No. Nel senso che alla fine voi... è quello che vedete, sì. Cioè, ma non è uno. Cosa vuol dire? Perché non è molto nel cioè senso che in realtà se sacco di uomini che scoprono tra loro in mezzo, ma no, No, è una discoteca, ma al contrario. I generi sono invertiti. Voi di default, esatto, voi di default siete una discoteca. Però se il tuo personaggio invece vorrebbe, desidererebbe essere in questo momento in un'orgia gay, è quello che vedi in questo momento. Ah, cioè, okay. Guardandoti bene intorno. Ma gay maschile? O gay femminile? No, quello tutti che uomini. Vuoi, quello che non sono solo uomini. No, no, in teoria sono tutte donne e gli uomini sono molti meno. Sono, sono generi. Immaginati la discoteca vera, ma generi invertiti. Gli uomini entrano subito, le donne fanno la fila, devono essere vestiti bene, devono pagare. Però quello è quando siete entrati, tutto il resto in realtà si modellano a seconda di quello che vi piace. Quindi in realtà dimmi che il barista chiede i soldi solo alle donne. Ottimo questo gin tonic. Sarebbe stato divertente. Va bene, se volete possiamo raggiungerlo usando la mia abilità di livello basso. Come si chiamano abilità queste cose? Abilità speciale. Spendi spendo un punto per evocare un veicolo guidato da un archetipo disposto a darti un passaggio. Mi sembra un'ottima mossa. Ah, ma scusa, io volo, ho volo 6 metri, no? Vola! Aspetta, mi ero dimenticato che so volare. Aspetta, bisogna desiderare. No, ma perché cazzo devo desiderare? Volo su, via. Sfortunatamente la piattaforma è 6 metri e mezzo. Quando comincia a volare io tipo che cosa sta succedendo? Vieni ecco giù, cosa ti succede? Ah, ecco come raggiungeremo la piattaforma. No, come faccio a essere serato in una discoteca? Quanto è alta sta piattaforma? Scusa. Un po'. Vabbè, 6 metri non vuol dire che è arrivato a 7 cadi, vuol dire che ci metti un po' di più. Sì, non vuol dire che è arrivato a 7. Devi sperare di dai, vola. Di parte qualcosa dopo i primi 6 metri. Esatto, cioè non è che vola, a 7 vola, poi... dai. Se no piombi giù di 6 metri. Ok, 6 metri la caduta. Se voli da solo, arrivi all'altezza della piattaforma e vedi che in mezzo alla piattaforma ci sono diversi stazioni per il mix dei brani. E in realtà non vedi nessuno che sta operando queste cose e vedi semplicemente davanti a queste una sorta di occhio gigante fluttuante. Occhio di Sauron. Ok. Che le brindo? Questo occhio fluttuante è reale, cioè è reale, è fisico? O è una proiezione? No, è un occhio. Un ologramma. Okay. Guarda chi si vede, no? Esatto. E provo a comunicare telepaticamente con lui dicendogli salve, desidererei scoprire che fine ha fatto Babbo Natale. In realtà se ti avvicini lui ti risponde, se è lontano non ti caga, nel senso che... Sì, mi ha dato da lui, sì, mi avvicini. Allora, avvicinandoti lui gira l'occhio verso di te e fa salve, c'è qualcosa che non è di suo gradimento in questa festa? Ma sempre nella testa. Sì, scusi il disturbo, avrei perso un caro amico. Si chiama Babbo Natale, desidererei ritrovarlo. Fammi un tiro di interazione, che ormai è l'unica abilità che state usando. Sì, parlano sempre... siamo dei giocatori di ruolo. Si parlano sempre telepaticamente, vero? 3 più 1, 4. Cosa dovremmo usare? Sa, la forza meno 1. Niente. Spirito. Anche tu hai meno 1. Lei ha la principessa Mimì è più forte di noi, ti rendi conto? Fammi un tiro di mente. Ma che mente ho? Io vado in palestra molto già forte. Tu hai più in forza? No, che zero. Sempre 4. Però sono immune a effetti psicologici. Non so cosa voglia dire. Quello che praticamente vedi che lui si volta verso di te, ti ha detto questa cosa, poi si rivolta verso la console e continua a ignorarti. Tu chiudi, hai gli occhi? Se voglio, sì. Molto chiusi. Chiusi le palpebre, le riapri e sei in mezzo ai tuoi compagni. Allora? Ok. Come è andata? Che sia stato piattonato. Però... c'è modo, vi racconto che cosa ho visto, e sembra che sia una entità che è molto ben disposta a soddisfare le richieste, tranne le mie a quanto pare. Beh, però se, però ha, magari se, ha, parla- se ha parlato con un rospo mal riuscito come te, può sicuramente parlare anche con noi. Esatto. Sì, sì, no, lo so, lo so. Magari posso provare a portare su qualcuno di voi. Riesco a caricare uno di loro e portarlo alla console. Forza. Forza. Beh, io due chiacchiere faremo malissimo. Io ho sentito che devo chiedere a lui per la droga. Ah, ho fatto uno. Ok, allora sì, lo riesce a portare. Ti sta portando? Il mago. Se non che a una certa... Chi stai portando? Sì. Il mago. Il mago. Il mago di me. Il mago di me. Sei aggrappato non so come a, a, a quell'oggetto. E salite... E a un certo punto però la, la sua superficie è un po' umida, scivoli e caschi e cadi esattamente dove c'è un ballerino che sta ballando e gli cadi davanti e lui continua a ballarti in faccia. Io? Sì. Ah, ok. Io casco? Sì. Sì. Sì. Atterrando sul cubo con questo qua che balla, a un certo punto anch'io... mi comincio a defilare anch'io, cioè, se non sono ovviamente col femore rotto. Ok, allora fatemi tutti una prova di... come si fa a vedere le cose? Aspetta, spirito, mente. Se sia mente. Oh, mente è anche un più uno, attenzione. Tiratemi tutti su mente. Mente. 2. 7. 9. Ma stasera... 5 più 1, 6. Ma tu hai più io ovunque. Ho più 1 in mente, riflessi e interazione. Minchia, minchia. Però più 0 in spirito e meno 1 in forza. Ok, vedete la cosa dell'occhio o meno più, più o bene, a seconda di quanto siete alti o quanto state guardando in quella direzione, che delle donnone, tipo quelle della sicurezza, si stanno avvicinando verso di voi, perché state facendo un po' di casino. Vabbè, stiamo solo volando e cadendo, non capisco. dobbiamo trovare un modo di uscire da questa... io sto ballando sul cubo, no? Vedo queste qua che sta venendo verso di noi. Ora, rivolgendomi a... più di una, sono un po'... C'è anche quella con che avevo sciarmato? No. Vabbè, allora a una a caso gli faccio l'occhiolino e faccio, mentre ballano faccio... E loro sta venendo verso di noi. Funziona. Bravissimo. E continua a ballare sul cubo. Va bene, le anticipo. È il momento dell'elicottero. Giulia, entra con la Lamborghini in discoteca e scappiamo. No, se hai qualche idea, vancela. Lei non sa chi sono io. Esatto. No, infatti, immagini, vai, ci sta, ci sta. Se Katta mi porta su e non mi fa cascare, faccio io, parlo io col capo di tutto. Va bene, proviamo. Faccio forza. No, cos'era? Sì, forza. Cadete entrambi. Aspetta, ma il tiro di mente non diciamo. Era per vedere se vedevamo le tipe arrivare. Era una sorta di 7-1-6. Con 6 riesci a portarlo su. Gli altri cosa fanno mentre le tizie si avvicinano? Io provo a dileguarmi. Beh, ci dividiamo un attimo. Anch'io mi dilego. Perché mi fanno paura, però resto vicino. Sì, non è che dovrò tirare sui riflessi, immagino. Ci dividiamo e facciamo un po' di mimetizia. Ma perché? Perché spendo un punto esperienza. Attenzione. Perché? No. Allora, no, no, lo diamo a Sala. No, devo dare al master. Il master non è questo. No, il master è quello. E questo cos'è? Una riserva per se ce ne serve. Allora, aggiungo una regola che non vi ho detto. Quindi, quando quello che spende Giulio lo do a te. Scusami un attimo. Questi qua sono 10 PX che non so. Giulio lo dà a me, sì. Ne hai 5. Quando tirate i dadi, potete decidere di tirare normalmente, ma se vedete che le possibilità non vi sorridono molto, potete anche decidere di fare una prova eroica. Cioè tirate un di 100, me lo dite e tirate un di 100. Una prova erotica. E qual è la differenza? Quindi, diciamo che avete uno spettro di risultati molto maggiore, potrebbe essere molto positivo o anche molto negativo. Okay. Dimmi giù. Comunque in pratica io vado lì dal capo DJ. Gli scarci il mio mitragliatore. No, spendendo un punto esperienza, quando ti introduci a qualcuno che non ti ha visto prima, ricevi un bonus di 1 di 10 nella successiva prova di interazione nei loro confronti. Okay. E quindi gli dico se può ricevere me e i miei amici e dirci di Babbo Natale Krampus. E a 2 di 10 di fatto. Però è meno 1 perché vedi. Catta. Sì, hai meno uno perché c'è cazzo. Ho capito, ho un di 10 in più. Che fa uno? Allora, no, cioè, non è che tiro 2 di 10, lo sommo, è sì. Più 1 di 10. Mi tiro 2 di 10. Sì, no. Sì, parlatemi pure, i vostri amici stanno per essere presi, quindi... fammi tirare, fammi tirare, occhio di ferro! Tiro 2 di 10, tiro 1 di 10, più 1 di 10. 2! Faccio comunque che gare, 7. Vabbè, però... comunque non cambia. Ma adesso Matteo deve vincere. Ok, io provo a dileguare a questo punto. In teoria la prova è per fare in modo che lui mi dica di Babbo Natale e Krampus e non ci faccia buttare fuori. Ci riceve, quindi. Ok, allora, lui in realtà non ha richiamato Letizia, però ti parla. Quindi Letizia continua. Cioè, quindi lui va bene, noi stronzi sotto, invece continuiamo. No, per ora. No, lei poi non è che magari non li caccia, non le sì. Caccia nel senso. Magari io non ho il nostro autografo, siamo VIP. Noi nel frattempo con chi ho il piacere di parlare? Io sono la principessa Mimì, molto onorata. Come si può porgere la mano all'occhio? Piacere, io forse sono non DJI. Un titino all'occhio. DJI, fantasia. AI. Piacere. Molto piacere. DJI. Sì, io e i miei compari stiamo cercando Babbo Natale. Chi è Babbo Natale? È un ciccio, cioè una persona vestita di rosso che era solita portare i regali alle persone il giorno di Natale. E che bisogno c'è di una persona così? Io porto doni tutto l'anno. Allora sei tu. Ne prendiamo lui, va bene, vieni per noi. Allora vieni con noi. Non lo so, è una roba di tradizioni, dipende anche dalle religioni dei vari paesi, vabbè, comunque questa è un'altra storia. E, all'inizio ci siamo incontrati con questo goblin molto antipatico, dovevamo interrogarlo, ma è saltato malgratamente in aria. E mentre parlavamo con lui ci ha detto anche di questo Krampus. Quindi siamo in cerca e stiamo cercando di capire... Che goblin? Come si chiamava? Boblin. Si chiamava Boblin. È quello delle aziende Boblin? Sì, forse, l'ex imprenditore. So. Aveva un bruttissimo disegno di una testa mozzata di donna sulla fiancata allora di un tir. Con Boblin e gli avete chiesto Babbo Natale. Poi venite da me a parlare di Babbo Natale e nessuno dei due sa chi è Babbo Natale. Forse non esiste Babbo Natale. Se no, però lui ci ha detto di Krampus, quindi sì. A questo punto stiamo cercando informazioni su uno dei due. Non conosco Krampus, però conosco Boblin. Sì, cazzi! Non c'è più. Non c'è più. Ah, condoglianze. Se non c'è più. Se la sua moto è esplosa. Da solo. Ho capito quanto è grave quello che avete fatto. Tutte le strade delle galassie sono fatte da Boblin. Era davvero la sua strada. cosa dire che... Non dire che avete fatto. Io non ricordo... ho fatto niente. Comunque. No, gli incidenti in autostrada sono sempre capitati. Vabbè, ma siete solo Mimì su con al massimo catta. È vero. Allora, io non ho fatto niente. Non dovete parlare con me comunque, anzi andatevene. Non... No, io sono sul cubo. Io sono sul cubo che ballo. Ottimo. Beh, sì, può indicare un'altra persona con cui parlare. Perché... Avete fatto un grosso danno ai miei affari. La renna, cioè i topi renna ci hanno portato qui, quindi dobbiamo essere qui per qualche motivo. Ora, sai, questa cosa non suona benissimo. Io non posso sapere che l'abbiamo ucciso. L'hai appena detto. No, io ho detto che è esploso. Non ho detto chi è stato. Sì, ma leggermente. Cosa leggermente? Ha capito? Lui mi sta dicendo l'ho ucciso io. Esatto, non l'ho ucciso io, non ho fatto niente. Se pensi alla cosa lo vedi, ma... Non lo so, questo. Comunicare via mente non vuol dire che leggi la mente. Allora, signorina, deve sapere che io esaudisco i desideri, quindi conosco i suoi desideri e so che questo Babbo Natale non esiste. Sì, ma quello non è il mio desiderio. Perché il mio desiderio è raggiungere l'illuminazione. Come? Io so che? Il mio desiderio non è trovare Babbo Natale, questa è una storia. Io ho un certo Babbo Natale, ma non conosco nessun Babbo Natale. Ma glielo farei vedere, perché il mio compito, vede, è fare esattamente quella cosa che ha detto che fa Babbo Natale. Babbo Natale non esiste, è inutile. Lei è un po' indisponente. Il re degli indisponenti. Sono io l'attaccabrighe. Io non sto attaccando briga, io sto avendo una conversazione civile con una cosa strana, aliena. Magari siamo stati perculati da quella specie di elfo che non è un elfo, visto che già abbiamo una slitta con dei ratti, può anche essere che la non esista. Va bene, sì. Diciamo che tornerò giù dai anzi, miei colleghi. Dai, e... spara sto cazzo di occhio! E dai, sei lì, scarica il cazzo di bagaglio. Lanciagli il limone del tuo gin tonic. Ma io, nell'occhio. Ma io stasera devo scappare. Il limone nell'occhio, riga. Se mi prendono faccio anch'io la mossa. Ma non... cioè... Vabbè, tanto c'è Job lì con me, e mi confronto un attimo con Job. Ok, intanto gli altri stanno scappando, fatemi tutti una prova di riflesso. Ma io più che... io sono sul cubo che ballo. Cioè, 7! Più che scappare cerco di... spostarmi un po' e ballare, fare finta di essere uno dei tanti, camuffarmi. Riflessi, sempre riflessi, ok. Ma tanto, cazzo. Madonna, sei forte. Mamma mia, quindi è 11. Sì, può più su qualunque cosa, scemo, ma è gatissimo. Sì, allora, i nostri cosa fanno? Cosa? Gli altri cosa fanno? Io sto ballando sul cubo e cerco di imitare. Ma tu te sta avvicinando. Sì, ma io cerco di imitare le mosse del ballerino per sembrare un duo. Ma mi prega un cazzo. Mi ho fatto no, finché se viene verso di me io scappo, sono palesemente in colpa. Presente quando la polizia ti avvicina, se invece tu stai lì tranquillo. E quanto hai fatto, Marco? 9. Cazzo, tutti meglio di me. 9, ok. Tu quanto hai fatto? 7. Beh, comunque è successo. Non lo so, da 6 in su è successo. Sì, sopra il 6 è sempre successo. Ah. 6 in più. Ma devo tirare anch'io? Però anche giù avevo avuto successo. Anche se non scappo? No, dipende cosa fai. Magari arrivi. Mi ha detto che ha buona magari usi forza. No, esatto. Io sto vabbè, se non scappi e stai lì fermo, la tizia semplicemente arriva e ti cerca di prendere. Comincio a pensare che Babbo Natale beh, non esiste. Mi cerca di prendere. Cioè, mi cerca di prendere? E dico, signorina, cosa sta facendo? Giù con le manine. Ah, buona che donna! Luce, non mi ci costringa. No, dico, giù le manine. È... non altrimenti tiro fuori la mia bacchetta. Le farò vedere un. Allora, fammi un tiro di spirito. Spirito? 8 più 0. Ok. Minchia, fortissimi. Tu cosa hai meno? Quando spirito hai meno 2, tipo. Vai, più, è l'unica dove ho più 1 io. Sì, sì. Quindi, sì. Senti, due mani che ti afferrano. C'è lo spirito, infatti. Molto più veloci di quanto ti aspettassi. Quando le guardi bene, vedi che non è più la donna di prima, ma è una sorta di troll. Ovvero la donna di prima in realtà ha tutte delle verruche orrende in faccia, tipo troll, e ti ha appena aggrappato. Beh, forse è più carino il troll della donna bodybuilder di prima. Ehm, cioè, faccio... Voi due cosa decidete di fare? Oh mio Dio, cosa ho fatto di male? Tu devi uscire. Il capo vuole buttarti fuori. Ma perché? Perché state facendo casino. Al capo non piace quando la gente non esegue i suoi desideri. Io sto parlando sul cubo con le altre. Ma non è lui che esegue i desideri? Sto nella tua mente permessa. Dico, sto parlando su... in alto cosa fate? Io volevo sentire un attimo con Job, l'unico che è lì. Dico... lui dice che non esiste Babbo Natale. Allora, gli altri tre sono riusciti a scappare, l'unico catturato che viene trascinato fuori è Arci. Che sta venendo trascinato fuori è Arci. Però io sto dicendo che sono innocente e non gli frega niente. Non capisce, è incoglionito, è un troll. A mente meno 3. Posso dire intervento a palla lontana. L'importante è, dicono ingenuità, che rimaniamo insieme. Ok. Credo due problemi, però va bene. Ma perché le renne c'hanno i topi? Insomma, perché la slitta ci ha portati qui se nessuno... allora, cioè le cose sono due. O inizio a sparare sulla folla. Sì. Che mi sembra comunque... non mi sembra una grande idea. Oppure prendiamo gli altri e usciamo. Ma ammazza questo. E cerchiamo di capire perché i topi renna ci hanno portato qua. Sì, potrebbe essere la cosa migliore. Quale? Esatto, quale. Radunarci fuori. Arrivederci e grazie. Ok. No, il saggio coso strano dice che dobbiamo fare altre cose. Bob? Hai visto già avvicinando Bob. L'uscita. Sì. Va bene. Senza muovere le gambe. Ora mi rivolgo di nuovo lì a DJI, faccio un mezzo inchino e me ne vado. Ok. Lui vedi che in realtà dopo che quando te ne vai ti ignora completamente. Sono molto stizzita per questa cosa. Va bene. Ok, quindi in realtà se non fate nient'altro venite tutti o da soli o accompagnati. Io nel frattempo Triz ha scoperto che gli piace la dance. Comunque. È una cosa dentro. Io ce provo a vedere se trovo... che ne so, i cavi da cui esce la musica, se ci sono, già che ci buttano fuori. Se non posso ascoltarla io non l'ascolta nessuno. Perché? Mente. Boh, faccio schifo come gli altri. 5 più prova eroica se vuoi. Sì, cazzo bene, posso puoi rifarla? La fortuna è una prova eroica. Ma sì, dai, tiriamo un dado da 100 e il modificatore che hai di mente più 0. Strano. Però ovviamente ha meno effetto. 85, no, 58. No. È 60, ah no, non c'è. 58. Ah, 58. Sì. 58 sarebbe stato figo. Ok, allora, cammini. Sì. Normalmente. E cercando, cioè, cammini cercando i cavi, ma... senza diciamo capire bene che cazzo sta succedendo, perché la gente torna a te balla e perché stai... Ma devo darti un PX, scusa? No. Ok. No, l'unica cosa che cambia dalla prova eroica è semplicemente che tirando un dado da 100 il modificatore ha meno peso sul totale. Ok. Quindi è più randomico e meno pesato dalle vostre statistiche. Quindi stai cercando di scappare da tizia, allo stesso tempo stai cercando i cavi. E a un certo punto senti qualcosa che ti trattiene da sotto e caschi per terra e ti fai un male porco alla gamba. Ok. Non si riesce più a muovere, ma la cosa positiva è che sei caduta su un cavo. Ok, quindi no, cioè sono a terra, rantolante. E a terra, in realtà zoppichi, okay. Però hai visto il cavo. Ok. E va bene, ecco. Tiro un gran porcone. Perché la prova eroica con 58 è... Trovi il cavo. È successo, ma cadi a terra e ti sloghi una gamba. Ti sloghi una gamba. E vabbè, come si sloga una gamba? Gran porcone e proverò però a... Hai trovato Krampus! Krampus, cazzo! E ti provo a staccare il cavo. Stacco il cavo se posso. Dai. Vabbè, sì, quello lo puoi fare. Non staccare no, però forse tagliare sì, sai qualcosa. I denti. No, dai, c'è proprio qualcosa. Reggiseno. Ha un gin tonic forse. No, quello lo finisco. Allora, l'alternativa è perché staccare non sai dove l'ha presa, però puoi prenderlo e tirare forte da una parte. Ho capito cosa vuoi dirmi. Aspetta. Cioè, non sei proprio sulla presa elettrica. Aspetta. Usa un espadrillo. Hai un ombrello. Sciamano, truffatore. Hai due volte l'ombrello, vuol dire che hai due ombrelli. Maglione, cazzo di ombrello. Hai un crocifisso dorato. Vaffanculo, borsa. Porca trota. Beh, hai l'acqua benedetta. Tiri l'acqua su. Rompi un po' il cavo e gli tiri l'acqua sopra. Il crocifisso comunque se lo colpisci il cavo lo spacchi. No? Non saprei come tagliarlo. Merda, Vest, devi usare la tua abilità di livello basso. Puoi tirare con molta forza. È da fare. Puoi tentare un'altra prova eroica. Quello è il problema. Scusa, rovina il cavo e tiragli l'acqua benedetta. Potrei, però non so se ce la faccio, slacciarmi il reggiseno, togliere il gancetto e provare se riesco. Puoi provare. Cazzo di reggiseni. Però direi che no, c'ha il gancetto. Non lo so, ci avrà una. Ma è più facile il crocifisso è metallico. Crocifisso non è che riesco a tagliarlo col crocifisso. Secondo me è più facile. Con l'ombrello. Con l'ombrello. Con la punta dell'ombrello. Tira, tiralo. No, non ce la faccio. Vabbè, no, aspetta, piano, fermi. Segue il cavo. Cioè, tipo zoppi, cioè, gattonando, segue il cavo, scelgo una direzione, segue il cavo. E si ritrova da DJI. Beh, arriverò a una presa. L'unica cosa è che tu segui il cavo, in effetti, però ti sei allontanato dagli altri, gli altri ormai sono usciti perché ti hanno perso di vista, quindi voi vi ritrovate fuori, mentre tu trovi una presa elettrica. Siamo tutti usciti. Ottimo. Quindi anche stacco. Stacchi? Stacco. Tira il dado percentuale. Ole. 41. Allora ti do il benestare del punto esperienza e ti do un punto esperienza. Ma quindi aspetta, no. Quindi dalla mia esperienza e dalla veste. No, dai tuoi. Quello che succede è che dai tuoi, sì. Fatti il cavo. Riserva. Sì, dai miei, sì. No, non da riserva, dai miei. Mm-hmm. L'ha usato basta. Lo sto usando io. E quando lo uso io lo do a un giocatore. Sì, sì. Caso, vabbè, per rincularlo. Perché gli arriva da una vagonata di merda. Allora, sentite proprio. Tutto si spegne, tutto si fa buio. E vedete le piattaforme dove ci sono le persone che cadono. Dove c'era anche il tizio e cadono su altre persone, quindi vedete che tipo casca tutto e ti cominci a sentire delle urla, cominci a vedere delle scintille, terrorista, terrorista, sangue ovunque e sta, vedi che sta andando a fuoco tutto. Non era molto sicuro, però posso dire con una presa. Il demone è questo che è stato posseduto da Emily, cioè. Esatto, il demone era la parte buona. Cazzo, se non ti dico i cazzo di mitragliatori, di elicotteri, di cavalli che sputano fuoco, i draghi, io posso sparare. Ma stacco una presa, tutto il mondo finisce fuori. Sentite che a un certo punto la musica si ferma e cominciate a vedere gente che esce urlando. Ogni tanto è gente che è piena di sangue, ogni bruciata. Tanto è gente che esce correndo disperata. E tu cosa fai, Vez? Beh, io sono già perfettamente nella parte. Zoppico, oddio, aiutatemi! Effettivamente. Ok, fai un tiro di riflessi per vedere se... No, non... riflessi no! Piacciato dalla folla. Cazzo, è una differenza, una cosa di... E se facessi tipo un forza per tipo issarmi, cioè magari vedo che c'è tipo una piattaforma che esce da lì, mi isso sopra per, diciamo... Le piattaforme sono cascate. No, appunto, esatto. Sono cascate sulle persone. Ce n'è una un po'. No, per metterli in un punto più alto dove tra virgolette sono riparato dalla folla che si muove. Salire sulle piattaforme schiacciando le persone. Andando a fuoco il locale. Ah, ok, quindi meglio che se me ne vado. Vabbè, dai, riflessi. 9-1, 8. Ok, allora niente, anche tu zoppicando riesci a non farti calpestare e uscire. Rock and roll. Voi continuate a vedere la gente che esce e dopo un po' esce. Quando vediamo, che cosa quando vedo Emily la vado a soccorrere. Ok. Il posto sta andando a fuoco e la gente sta scappando. Cosa è successo? Poi, cara? Ho preso un cazzo di posto di esperienza, quindi andavo. Ho staccato la presa di quei pezzi di merda. Beh, se posso dire la mia visione un po', ben diciamo, non molto diplomatico, ma va bene. Alla fine con chiunque parliamo finisce in fuoco, in fiamme. Sì, stavo pensando. Ok. È il momento allora. Poi il trademark. No, aspetta, vediamo. Credo che anche 100 piedi di cadaveri possa valere se vuoi raccogliere i cadaveri. Salite sulla slitta? Aspetta, possiamo raccogliere 100 PF di cadaveri? Ricordi, mi dispiace solo per il barista, era simpatico. È vero, non d'accordo. Il polipo? Sì. Sì. Ma l'occhio non c'è più. È cascato in mezzo alla folla. Mm. Non sapete dove. Oh, ha raggiunto il suo amico Poplin. Occhiuccio. Comunque due su, cioè nessuno. Siete entrambi nel paradiso degli stronzi, A mia discolpa, non pensavo fosse un casino del genere. Ben fatto, Emily. Devo dire Hyde. Ok. Andate sulla slitta, che fate? Forse è meglio allontanarci da. Sì, okay. Ci sì, andiamo a distruggere una cosa sulla slitta. Io dico aspetta. Posso usare la droga veramente buona per cercare di capire dove è Babbo Natale? Adesso ce lo dici, abbiamo distrutto mezzo universo. Abbiamo dato una possibilità. Non ero sicuro se questo era un sogno o no. Allora, prima ci andiamo da qua, poi ti trovi qua lì. Ah, caro. Puoi drogarti, ma guidiamo. Ma è buono. No. Se ci fermano. Vabbè, ma non guidi tu. Scappiamo da qui prima che arrivino le guardie cittadine. Saranno impegnate, il coso va a fuoco. Appunto, siamo qua davanti. Ha tirato via un cavo e stavo andando fuoco a tutto. Cioè, minimo, adesso ci sarà una serie di esplosioni successive che distruggeranno tutta questa isola. E noi dobbiamo allontanarci. Non ci pensano i sto cazzo adesso l'ingegnere nucleare. No. Però se funziona come Star Wars. E noi dobbiamo allontanarci. Esatto. E noi dobbiamo allontanarci sulla slitta senza voltarci a guardare le esplosioni. Così ogni dimensione. Forza. Bene, ne mancano 4. Quanto erano? 6? No, non so quanto erano. Andiamo. Finite, aveva detto un nome, Sì, no, i nomi. Beh, però scusate, se il nostro Ra's al Ghul ha la possibilità di vedere Babbo Natale. Dopo prende la droga e lo vede. Adesso andiamo via. Quindi? Va bene, la vostra perversità. Tirato un nuovo conto. La slitta dice qualcosa? No. C'è? Ma c'è la lista sulla slitta. Io non vi ho detto niente. Cosa? Possiamo accedere alla lista sulla slitta. Buona domanda. E come fai ad accedere alla lista? Non so, c'è un pannello di controllo dei pulsanti. È un pannello, ma le scritte tipo Star Wars, quindi i caratteri sono un po'. Ha un pannello di controllo la slitta, ma guida le renne? No, per vedere la lista dei cattivi. Ah. No, vi ha detto che aveva caricato la lista dei cattivi. In che parte sarà? Non so. Premiamo dei tasti, vediamo cosa succede. No, vedete il pannello, sono tutti i caratteri tipo Star Wars. Chi se ne frega, premiamo dei tasti e vediamo cosa succede. No, aspetta, magari il coso conosce l'alfabeto. L'occhietto di salvo. Job, riesci a leggere queste scritte? L'occhietto di salvo. Non lo so, riesco a leggere queste scritte. Job, riesci a leggere? Perché dovresti leggere queste scritte? Sei un cazzo di mostro come queste scritte. Sono 10 milioni di anni. Magari le ho incontrate. Allora, fai un po' di tempo. Dai. Proviamo. È quello che ho più probabilità di saperlo. Sì. Catta in questa campagna era un po' come quella specie di polipo che giocava nella campagna di Star Wars. Maro. Esatto. È una trappa. Questa. Ciao. Ho fallito. Perfetto. Premo un tasto a caso. Autodistruzione attivata. Vedi i caratteri che cambiano, ma non capisci un cazzo. Cioè, c'è uno schermo e se io premo dei tasti cambia lo schermo, nient'altro, diciamo. In realtà non sono dei tasti, se tu premi lo schermo cambia lo schermo. Posso provare a dedurre in qualche modo. Ma intanto possiamo andare. Sì. Intanto che lui giochicchia con lo schermo, io guido, che ci allontaniamo. Perfetto, tirami un dado al centro. Oh. Niente, mentre faccio 3, quindi non dico niente. 57. Secondo me mi fai ritirare. L'ho fatto già. Infatti. L'ho già fatta. Ritira? 69. È una bella dimensione. Deserto. Quindi ve ne andate, solito trip. Solito insomma, movimento, eccetera, cose strane. E arrivate in un posto molto silenzioso. E completamente circondati da rocce. Deserto. No, nel senso siete come in una grande grotta. Ma chiusa? Sì, tutto chiuso. Vedete solo in lontananza tipo dei binari che vanno avanti. Mi sposterei. Dai, siamo sui binari, siamo. Ma non è che qualcuno di voi spostati ha un modo di curarmi? Da cosa? Da cosa? La domanda giusta è da cosa? Ottima domanda, è la gamba in realtà. Io sì, mi sa che ho qualcosina che non posso fare. Da cosa? So che mi pentirò di questa domanda. Io purtroppo no. Io cioè, potrei pagarti delle cure se fossi un nuovo cilindro. No, penne calamaio, se vuoi fare un disegno intanto. Grazie per... Io dice che nel mio libro di incantesimi... Io so, ho una... Ti senti meglio? Ho una pergamena magica di riparare. Posso usarla sulla gamba? Non credo. Suona molto come riparare di chi. Puoi usarla sulla gamba, sì. Cioè, no, mi può riparare la gamba. Sarà come riparare... Non lo sai, però puoi usarla sulla gamba. Non so, no, io... Beh, sono un mago, saprò cosa fa l'incantesimo. Allora, sai che di solito viene utilizzato su oggetti. Madonna cos'è? Ah, volevo dire. Io rimuovi patriarca. Io rimuovi malattie, conta come cura o no perché non è una malattia? No, secondo me è riparare, secondo me. Cioè, se va meglio rimuovi malattie. Ma le malattie secondo me li togli da l'esorcismo, li togli da Emily Rose. La vostra slitta è su un binario, è sui binari. Spostiamoci dai binari. Vabbè, ma sa, cioè segue i binari, cioè ok, non c'è in mezzo ai binari. In questo momento è ferma, è sui binari, vedete che è buio. Topi, le renne puntano dritto verso i binari. No, non è buio, diciamo. Salla, una domanda, mi dice che io le magie impiego un di 10 ore a trascriverne di nuove, quindi sì. Vabbè, tipo D&D, se le trovi le puoi copiare. Ah, devo trovarle però. Non è che scrivi da oggi so fare questo. O curare gambe di 10 ore. È buio? C'è luce? No, c'è come fosse una luce innaturale che, per cui vedete al buio di fatto. Ah. Cioè, io, ok, io vedo sempre al buio. Non vedete la fonte luminosa, ma vedete questa luce soffusa ovunque. Io, se i topi regni non si muovono, mi sposterei di là. Ma loro stanno andando sui binari. No, siamo fermi. Beh, possiamo guidarle sui binari. Guidali. Li provo a guidare lungo visto i binari. Visto che sei affine, una creatura. La slitta okay, la... Allora loro vanno avanti, cominciano a passare e voi avanzate in questo lungo binario, sopra sempre alla vostra slitta, e, andando sempre avanti sentite un rumore come di fabbrica, come di macchinari. E arrivate in una sorta di sala molto più ampia in cui vedete questo grandissimo tipo, come si chiama, una sorta di, come si chiama le cose della fabbrica, i catena di montaggio. È una catena di montaggio gigante che sta lavorando, non vedete cosa fa, e però sta funzionando e fa un rumore tipo ritmico. Forse qui fanno i regali. Beh, questo mi sembra molto da Babbo Natale. Cerchiamo di avvicinarci per vedere che cosa costruisce. Ma c'è qualcuno che lavora? Allora, per ora non vedete nessuno. Vedete lungo i binari che accostate una sorta di struttura, tipo quelle tipo cantiere, capocantiere, no? Tipo una sorta di prefabbricato, con dentro una luce accesa. Ok. Proseguiamo. Che cos'è quel forziere gigante di colore grigio? C'è cioè un po'... un edificio? Una capanna. Una capanna? Ah, ok. Una capanna dove ci sta un tizio con cui parlare. Allora andiamo. Andiamo. Andiamo a chiedergli di babbo. Ci avviciniamo, magari accostiamo la slitta e scendiamo. Sì, quando arriviamo finì. Scendiamo dalla slitta e ci avviciniamo, magari vediamo se riusciamo a capire cosa costruisce questa. Con allora, non riuscite a capirlo. Ok. E l'unica cosa è avvicinandovi anche alla sorta di casetta, vedete che all'interno sembra esserci solo una persona intenta a scrivere innanzi alla casetta. Una persona sola. È armata, è... cioè cosa vediamo? Insomma? Da fuori non è riuscita a capire. Ah, okay. Sembra che stia lavorando, scrivendo, facendo qualcosa. Entriamo. Bussiamo. Principessa di sto cazzo, si bussa. Bussa. Perché è principessina e poi entriamo. Si bussa. Si bussa nelle case private. Questo è un ufficio. Non ma abita qui questo cazzo. Signore, cosa ne sai? È la sua capanna. Mi avete detto voi che è la sua capanna. No, è un luogo di lavoro, non vedi la fabbrica. È una capanna di lavoro, ma comunque si bussa. Allora, la porta è socchiusa comunque, se fate per bussare si apre. E io busso. Allora, no, io vado lì col mitragliatore, faccio per bussare, si apre, guardo. Patapin e patapan, patapin e patapan. L'ordine è stabilito. E chi siete? Sentite questa voce abbastanza bassa, proveniente da un signore anziano, pelato, senza barba, e magro, però comunque abbastanza robusto, che sta scrivendo su una sorta di scrivania. Salve. Salve. Io sono la principessa Mimì e questi sono i miei compagni di viaggio. Mi presento, non so, si presentano loro. Vabbè, sì. Il mago Mattiel. Il truffa... No, magari non lo dico, sono Triz. E perché siete qui? Io sono Zonama. Zonama, me ne vado. Zonama. Leggi al contrario. No, poi è Nozama, se posso. No, è Zonama. Ah, è semplicemente... No, per distruzione è Zonama. Scusa, si chiama... Ah, Zon è il nome, Ama è il cognome. Si chiama Zon Ama. Va bene. Ci sta. Hai problemi col mio nome? No. Ah, che ricordava. Bene, sono famoso. Forse mi avete riconosciuto. Perché siete qui? Gente per signore, staremo cercando Babbo Natale. Sì. Potrebbe aiutarci. Ma sono io, mi risponde così, oggi ormai è lui. E chi è questo Babbo Natale? È il signore che consegna dei doni una notte dell'anno, il 25 di dicembre. Scommetto che anche lui ti risponde, lo faccio io tutti i giorni. Io consegno doni tutto l'anno, perché dovrebbe esserci uno che consegna i doni una volta all'anno? Perché è tradizione in diverse parti del multiverso. Io consegno doni tutti, tutte sì, le parti del multiverso. Questo li consegna gratis sempre, anche negli utenti sì, premium. In teoria fa... Questa persona fa una lista di bambini buoni e bambini che sono stati cattivi, consegna regali ai bambini buoni. Quindi anch'io consegno ai bambini buoni. I bambini buoni di solito sono quelli che possono pagare. Onesto. Ecco, diciamo che lui non fa queste distinzioni classiste. Mi sembra abbastanza inutile, comunque non lo conosco. Perché non è un SPA o una società. Però tecnicamente Babbo Natale porta regali poi solo nei paesi industrializzati, non è che va nei paesi poveri. No, io li porto in tutte le dimensioni. È chiaro che se hanno i soldi per pagare è meglio. Beh, in teoria... No, se no i bambini sarebbero pieni di... in Africa pieni di cibo. Magari hanno sbagliato la letterina, hanno chiesto altre cose. Imbecille. Il genitore avrebbe chiesto. Mi dica, avrebbe modo di regalarti un traduttore universale? Sì, vi regalerei un traduttore universale se solo voi poteste pagarlo. Ma non è un regalo, se lo pago. Abbiamo qua la principessa Mimì che è sfondata dei soldi. I soldi non sono un problema. Tira un dado percentuale. Sì. Quanti soldi hai? Tu ho uno molto forte. 66. Sei quelli che voglio. È tipo il mio elfo di... Il mio elfo di signore. Dite che il traduttore deve essere multidimensionale. Sì. Traduttore di testi scritti. Di vero CR Allora, sono 1000 slorpi. Accetta qualsiasi cosa abbiamo. 1000 slorpi. Allora, posso cambiarveli io? Che moneta avete? Principessa Mimi si fida di... Riproviamo. Principessa Mimi, sì. Posso far credere a questo buon uomo che uno dei suoi gioielli vale ben oltre quello che lui ci chiede? Se i sono... gioielli valgono ben oltre quello che lui ci chiede? No, non credo. 100.000. Non sappiamo il tasso non di sappiamo cambio. Il tasso di cambio, ma... Però... Sì, fa... E se quando si girano pugnagliamo? Quanto ho detto, scusami? 1000 slorpi. Ok. Hai una ruspa, il no. Perché ho un'abilità che okay. Se spendo un PX faccio quindi credere. Soldi? Faccio credere a uno che accetta dei cosa, pegni. Che un oggetto vale un D10 più uno vuota in più. Io oggetti, poi se spendo un punto esperienza posso avere un milione di PC extra per comprare cose. Però non è la sua valuta. Ma capito, un milione. Non so. Non so cosa sia PC. Personal computer. No, PC sono... Non sono i personaggi, aspetta. Puoi avere un milione di personaggi. Di PC extra. È scritto. No, sono i soldi. Sì, sì, sono le monete. Però... Sono gli stessi qui. Allora, il mio abito... No, sono gli stessi, però puoi provare. Il mio abito costa 2500. Però ok, non so. Quindi? Beh, Salla, dacci un'idea di quanti sono 1000 slorpi. Non ne abbiamo idea. Allora, trizio, cosa... Credo si sia bloccato Salla. Sì. Sì, si è un po' bloccato. Sono bloccato? Adesso no. Adesso sì. Adesso non c'è più. Ma è un problema vostro, perché a me si mi è bloccato. Ora adesso ci sei, okay. Adesso a posto. Vabbè, comunque dicevo, non, cioè, voi non lo sapete quanto vale, quindi potete provare a dargli dei soldi e poi magari vi vieni. Tu cerca di poi capire quanto siano questi 1000 slot. Non lo posso sapere. Questa è una moneta, stacco la spilla, questa è una spilla che vale 250 della mia moneta. Ma quanto è grossa questa persona? Gliela provo a vendere? No, cambio. Vedi, cerca di capire rispetto a quella fisico. Quanto vale. Sì. Cioè di altezza è 1,80. Se con questo siamo a posto... Sembra molto forte? Ok. No. È una spilla ingioiellata. Ok. Vado da Zon. Ama, per gli amici. Zon Ama. Esatto. E gli mostro questa spilla ingioiellata della principessa Mimi. Mm-hmm. E gli chiedo, vedi... Fai un tiro di interazione. Anche noi abbiamo cose di valore, come puoi... Non vado per vendergliela per ora. Fammi un tiro di interazione. 5, porca troia. Ecco, ce ne vogliono circa 20 di quelle. Quindi... 5.000? Sì, ma ha fallito la prova, eh. Non può essere che siano imbecilli. Ma tu non lo sai. Allora, io uso... 5.000, ho molto di più. Aspetta, io uso un punto, se siete d'accordo, un punto esperienza. Perché è la mia abilità speciale, spendendo punto esperienza e un di 10 minuti, quindi mi metto a conversare con lui, e puoi convincere un bersaglio che il valore di una di qualsiasi cosa è superiore di un di 10 più una volta. Quindi posso dirgli che questa spilla non vale quello che vale, ma vale 10 volte di più. Ok, lo fai? Lui ci crede. Capito, ma non ha detto 20. Vabbè, intanto però lo fottiamo su una cosa. Vabbè, ok. Di già 20 volte di più. L'abilità è un di 10. Ah, ok. Io parlo col mago e dico: non sembra così grosso. E se provassimo. Ah. Vabbè, io. Però non gira mica il manuale. Cioè, anche se lo pesti, mica ti dà il manuale. No, non ce l'hai lì con lui? Ce l'hai con lui? No, dovrà ordinarlo. Scusa, no, non c'è la cosa del reso che tu lo provi e lo puoi rendere. Non, cioè, se lo stai chiedendo al mio personaggio non sta capendo quello che stai dicendo, quindi su Zonama puoi fare il sole, non il reso. Vabbè, hai una cosa che vale 500. Elicottero quanto vuoi? Gliela spaccio per una roba da 5.000 e siamo a posto. Qualche amarino. Che vale 500. 400, 350, una roba intorno a quella cifra e ce la giochiamo. Ma qualcosa io? Scusate, qualcosa anch'io, no? Gigi, io gli do un pezzo di... Sapete che è una one shot? State davvero facendo sta cosa? Io ho un pezzo di Giada che vale 500. Va bene, uso un Pix. No, aspetta, e gli dico, questo... è antico pezzo, viene da Montezuma. Ma non basta, non vale, gliene frega, non gliene frega, lui vuole cose di valore davvero, non cose che la mia bacchetta che... perché Giada non se ne va, il mio abito da sposa vale 2500. Sì, ma non puoi togliertelo, rimani nuda. Cosa stai cercando? No, sono reggiseno, autoreggenti. Se sei d'accordo provo a spassargli la spilla per quello che ci chiede. Tu hai detto qualcosa che vale 500, io ce l'ho, perché non lo vuoi il pezzo di Giada? Vale 500. E te l'ho detto! Ma ti serve? Avrà un'abilità. Cazzo, ma ti serve? Quando hanno quelle voci lì hanno un'abilità. Da cosa significa A? Dal signor Zonama. Dal signor Salla, cosa significa A? Che è il capo di Salla. Negli oggetti? Negli oggetti c'è A1, A2, A3. A volte cosa vuol dire? Mandarino? Cioè tipo io ho gli stivali che hanno 2 PF, valore 100 e A1. Ma non tutti hanno la... Darino è fresco, non proprio freddissimo. Quindi se vuoi... Posso darti la droga divinatoria? Così al posto di sapere dove abbonare direttamente. È quello di armatura. Armatura. È l'armatura, è quanto danni. La Giada ti dà l'armatura. Tu hai un pezzo di Giada che ti dà l'armatura. Un pezzo di Giada che mi dà l'armatura, ottimo. Ok. E cosa facciamo? Ci provo? Se no dagli i soldi se ce li hai. Ecco, non ho soldi, è solo roba che vale molti soldi. Vabbè, io intanto provo, uso un Pix e lo do a Sallino e gli dico: questa non è una semplice spilla. Grazie. Tu che sei un abile venditore, lo dovresti capire. È una spilla che appartiene alla sua famiglia da diverse generazioni. E tu sai bene che le cose più sono invecchiate, più hanno pregio, hanno valore. Questa spilla vale almeno 20-30 volte tanto quello che tu pensi valga. Sono quei maiani, no? Credimi, se racconti... Come? No, sono cosciente. Come? Devi tirare. Sì, esatto. Dice che spendo un XP e un di 10 minuti, vabbè, quindi scegli tu anche 10 minuti. E posso convincere il bersaglio che il valore di qualcosa è superiore di 1 di 10 più una volta. Okay. E se riesco a vendere qualcosa a qualcuno per un valore superiore di almeno 10 volte quello che vale, ottengo il Pix. Okay. Quindi intanto tiro e vediamo quante volte la faccio valere. Beh, è su un'abilità, aggiungo dei più 3. Se non è scritto, no. 3, anche su 3 più 1, quindi 4. 4 volte più? Sì. Ci ho provato. E basta? Dice sì. Poi non so se tu... Ah, vabbè, può essere, ma deve fare qualcos'altro. Deve? Devi aggiungere qualcos'altro. Gli hai dato il punto esperienza? Sì, sì, l'ho già messo. Quindi, se lui la valutava 2,50... Se lui la valutava 2,50, in realtà adesso crede che valga 1.000, giusto? Più o meno, sì. Vale 4 volte. Detto che in realtà lui all'inizio voleva fotterti, quindi tutto questo discorso non ha valore, però va bene lo stesso. Sì, perché in realtà ho tirato male, però non lo so. Io. Allora, questo abito vale 2.500. Ora, a parte il mio intimo, che vale meno... Sì, ma devi dirlo a lui, non a me. No, dico te perché tu stai iniziando le trattative. Tutto il resto per l'ultimo usato vale di più. Potremmo fare questo discorso effettivamente, ma diciamo il valore di mercato. Dacci il tuo intimo. Ma sicuramente più il suo. Vabbè, lo spacciamo per suo anche il tuo. Dacci il tuo intimo. Ma scusa, mi state cercando di convincere di vendergli cose per avere in cambio un traduttore di testi multidimensionali, ma scusa, vediamo cosa c'è sulla traduttore per ma va bene, esatto, scusa, Kata non ha il bagaglio lì, coso Job, non ha qualcosa da Steve. Allora faccio una proposta io. Ti posso dare questo? No, perché io posso comprare tutta la fabbrica, però mi sembra un attimo. Però tu hai i tuoi, la tua valuta, non sappiamo se lui l'accetta. E questo... accetta la spilla, vuoi che il mio diadema che vale 50.000, vuoi che non l'accetti? Collier? No, no, come si chiamava? La parigura, ma questo come, 10.000. Come è fatto questo tipo? Come è fatto questo tipo? Si chiama Zon Ama. Ed è pelato, un pochino grosso, ma non troppo pelato, senza barba. È Jeff Bezos. È un vecchio che non sembra, non sembra è forte. È palesemente Jeff Bezos, te lo dico. Non così. Sembra forte, possiamo ucciderlo. Immaginati Jeff Bezos. Lo scettro vale 10.000. Caro Jeff Bezos. Dai, si chiama Zon, Zon Ama. E immagino che stesse scrivendo delle virgole con la freccettina alla fine, tipo... Lei immagino che sia un grande lavoratore. Anzi, scusa, al contrario però, perché... dipende, non mi cotterivo. Lei è un grande lavoratore, giusto? Beh, ho fondato tutto questo. Esatto. Però a volte non si sente un po' solo, un po'... come dire... depresso. Se lo vuole... Ah, un cazzo, cioè, alla fine il successo ci rende un po' soli. Principessina, finita a fare un trisom con lui, siamo pari. Io posso offrire questo. Primo è gratis. Gli do un pasticchino. Secondo me è meglio se lo spacchi e tiri. Gli do un antidepressivo. Fai un tiro di interazione. Ehi, chi è che mi ha rubato i... Ah no, quelli no, sono lì. Sì. Scusami, un tiro di interazione. Perché state facendo i pidocchi sui vostri oggetti di una one shot. Io non ho oggetti di valore. Quindi... Io ho il crocefisso d'oro, se volete ve lo do. Quanto vale? Ma non si dà, tanto che sei posseduto, cazzo, te ne fai il crocefisso. Beh, in realtà. Vuole 5.000. Valore 500 vale. Ma vuole 5.000, Vez. 5.000. Ma gli posso dare la mia bacchetta magica, però, Vez, cioè, dopo come faccio esplodere? Ma gli dai una roba che vale 2.000 miliardi. Vabbè, di milioni e provare questo. Interazione 10. Tira? 10. 10. E lui lo prende e lo mangia. Doveva sniffarlo. E l'ha mangiato. Vabbè, prova a sniffare quest'altro, gliene do un altro. Ne ho 20. Di cosa? Gli antidepressivi. Sta dando degli antidepressivi, non so bene dove voglio arrivare. Li vendiamo anche noi questi. Ah, so io cosa ci vuole a te, vecchio volpone. Vabbè, posso dare le scarpe di cristallo che stanno iniziando. Scusa, ma tu non hai l'elicottero? E non ce l'ho dietro. Te scarpe. Dove arrivare? Mi serve è il momento. Beh, ordino solo. Ordino comunque le scarpe di cristallo valgono come l'elicottero. 5.000? 100.000. 100.000? Ma lui vuole 5.000. Ho capito, cioè non ce l'ho delle cose che vanno 5.000. Senti, quanto vuoi per questa fabbrichetta? No, perché qui arriviamo direttamente. Scusa, tira fuori quel cazzo di scarpette di merda. Il mio libro delle magie vale. Adesso faccio il posseduto su di te. Allora, lotto numero 2. Abbiamo questo fantastico paio di scarpe. Io stavo lì a fare l'impasto. Usate. Che valgono di più. Senta, signor Zonama, andiamo al mestiere più vecchio del mondo. Tira interazione, se più il venditore vuoi vendere. Due giovincelle. Pezzo, ma c'ha un cazzo di elicottero. Che due giovincelle? Gli elicotteri non si scopano. Per queste due giovincelle. Ma... no, sei tu che stai parlando. Pezzo, vuole 5.000, dagli 5.000. No, gli dai le scarpette che valgono molto di più. Gli dai le scarpette di cristallo che valgono un culo di più. Sì. Cazzo fai? Interazione, ho fatto 9. Ma una bella notte di furore con la nostra posseduta. Fatti mettere le cose in più, che questo va male. Fatti mettere l'inferno, non ti servono quelle cazzo di scarpette, troia! Devo dare un punto esperienza per farlo ogni volta. No, visto che questo vale molto di più, fatti cercare di pareggiare. Allora, parliamoci chiaro, queste scarpette valgono 100.000. 20 volte più di quello che voi ci state chiedendo. Sono impattata con la voce, presenti quella di Amiros quando la posseduta parla con quella voce tipo da uomo. Sì. Sta facendo le voci, no? Mi sono immaginato che tu quel cazzo di scarpette stai all'inferno, troia. È esattamente così. Allora, e poi dopo faccio in effetti chiudiamo questa trattativa in fretta. Le proponiamo questo paio di scarpe di cristallo che vale seriamente 20 volte, non faccio tiri questa perché è numericamente fattore 6, vale Truffinoi? No, ho già provato, ho già usato un punto esperienza. Ho truffato giù. No, no, ho fatto 9 in interazione. Comincio che un euro e notare 0,25. Più o meno. Valgono 20 volte quello che lei ci chiede, quindi le chiediamo sicuramente la richiesta del nostro amico Job prima che si addormenti, in più... Chiedi tu quello che cazzo. Ma tutto quello che lei può darci per arrivare alle informazioni che ci servono. Vai, vai. Lei... Io non do informazioni, do oggetti. Io do... Sì, no. Ma lei potrebbe darci degli oggetti oppure dei contatti per raggiungere le nostre informazioni. Che... mi scusi, buon uomo. Oggetti Babbo Natale. Google Maps. Tipo quello delle sfere del drago. Scusi, non ho capito una cosa. Questo drago, produce qualunque cosa. Ah, ho la busta io. Produce qualunque cosa, esattamente. Scusatemi, non ci puoi produrre un Babbo Natale? Non so, non esiste Babbo Natale, non so cosa sia Babbo Natale. Quindi non produci qualunque cosa? Qualunque cosa che esista. Produco le cose reali. Krampus? Krampus? Però fammi indovinare, tu conosci Boblin e il DJI? Sì. Cioè, il mio migliore amico lui era. Condoglianze. Ma torniamo a noi. Allora. Vuoi essere il terzo? Un po' vuoi essere la terza esplosione della campagna? Emily, vai a cercare una presa. Potresti produrci una bussola radar sì, che ci segna. Posso darti il traduttore più altri due tesori. Oh. Beh, i tesori a noi piacciono. In cambio di... Quindi un forziere pieno di monete d'oro. Tanto di scarpette a casa ne ho quante ne vuoi. Gli scarpe saranno. Chiedi del cibo. Chiedi del cibo. Cosa te ne frega? Amazon Fresh. Zonama, Jeff. Ma c'è... avremo bisogno di cibo. Nah. Ce li ha davanti, ce li posta allora, ste cose. Ti dà il... Hai bevuto un gin tonic? Il traduttore? Sì. Per i testi, è stato chiaro, sì. Mio amico. Quello senza faccia. Sì. E poi tirami un dado da 100 tu o chi vuole. Vai. Se te la senti. Se trovo, sì, dai. Puoi farlo. Puoi anche non farlo. Cibo! 94! Boom. 94. Babbo Natale! E la sua cazzo di re... di stendi. Tira un altro dado da 100. 22. Madonna, ti godo troppo se ti capita. 22 hai detto? Sì. Purtroppo. Vabbè, uso... No, non lo uso, non lo spento. Dai, te ne ho dato appena uno. Ne hai 5, te ne ho appena dato uno. Hai dato, ci hai fatto perdere. No, vabbè, perché ho tirato casualmente un bestiario e speravo fossero altre scarpette, e invece era un cappotto. Grande, un cappotto bello firmato di cammello ma pelle vera. Questo alistino sono almeno 130.000. Però visto che ho preso su Yux ho avuto un'offerta, tutto se lo vendremo. No, male. No, vinted. Prima come nuovo, però. Tiratemi di nuovo un dado da 100. Che cazzo ce ne facciamo? Faccio io questo. Vai. Cosa ce ne facciamo? 103. 63. 63. Nel cappotto c'è dentro 63. Tira di nuovo da 81. L'ha andata male tutto già. 81. Ah, un simbolo sacro un gioiellato. Ah, un altro crocifisso, beh. Metti la lista tu. Scusami, Vuoi sapere di più di che simbolo è? Devi tirare un altro da 200. Ma sì, dai, vuoi sapere che simbolo è? 91. Allora vedi un effetto di una divinità che la cercheremo. 91 hai detto? Mm-hmm. Divinità. Yog setato. Ah, ecco dove l'avevo lasciato, grazie. Ah, vedi una persona anziana su un bastone e sai che è la divinità della vecchiaia. Bella merda. Quindi scusami, i tesori erano il cappotto e sto simbolo. Sì. Sì. Esatto. Beh, però su Vinted. E quindi? Ok, avete il vostro traduttore. Oh, quindi torniamo un attimo alla slitta. No, catta, 40 minuti per avere sto cazzo di traduttore. Però almeno vediamo la lista dei cattivi. Adesso. Io mi metto il cazzo di cappotto. E potevi chiedermi comunque delle due scarpe, perché sono scarsa. Avanzano un paio di scarpe anche brutte. Numero 38. 37. 37. Sì, ma 37. Solo perché sono in omaggio, vi dà queste tipo di stivali di merda di plastica. Perfetti. Ma non sono quelli che ho usato a sparare fango negli ultimi due mesi. Perfetti, esatto. Ah, perché tu erano le tue scarpette con cui giravi? Di cristallo, sì. Certo, girava con le scarpette, ovvio, no? Mi sembra la cosa più ovvia. Adesso bene. Sono tutta ingioiellata con la tua sposa e degli stivali di gomma. Andiamo a vedere nella lista dei cattivi. Cioè, nello schermo, se diciamo... sulla slitta e usate il traduttore sul monitor, sì. E vedete che il monitor è una sorta di computerino che ha un solo file all'interno, qualcosa di dolce, mirto, mandarino, non mi piace il mandarino, mi spiace, no, ci sono. E c'è scritto sopra target, com'è? È solo scritto sopra target, e poi c'è scritto i nomi delle persone, quindi c'è Donama, c'è DJI e Bobbin. Ok. Vabbè, e poi alla fine c'è scritto tipo riportare alla base. Ok. Cioè scusate. Cioè abbiamo fatto il giro completo della gente? Quindi dobbiamo tipo ucciderli. Per assaggiarlo intanto. Grazie. Ok, a questo punto mi sovviene un pensiero. Noi stiamo ammazzando della gente... Che lo dici desideri? Che in qualche modo è utile. In realtà credo che sia. Comincio a capire che potrebbe essere un piano di quell'elfo di merda. Sì, che non è di eliminare la concorrenza per Babbo Natale. Comincio a pensare che sia così. Secondo me non esiste Babbo Natale. Potrebbe essere, però. Posso avere io la risposta. Posso avere io la risposta. Dovevamo salutare il Natale radunando sta gente e abbiamo fallito. Nah. Ok, prendete con me questa droga e avremo la risposta, amici. Quindi, non lo so, ancora contento. Cioè, vediamo che c'è la lista di persone da radunare. No, c'è scritto solo target. Target, ah, vabbè, vuole che li ammazziamo. Vabbè, allora, scusate, torniamo da Zon. E... quindi abbiamo ucciso solamente i primi due. E anche questo. Quanti sono in tutto? Tre. Tre, e poi c'è scritto tornare alla base. Secondo me però se noi ammazziamo il terzo, torniamo alla base, il tizio che ci ha mandato la missione fa grazie noi. Capito? No. Dai, uccidiamo Zon e torniamo alla base a uccidere Sal. Non capisco la logica di questo. Ti ricordi cosa ha detto? Il boss finale sarà Sal. Sarà il master. Sì, ma io voglio usare questa droga. Mi la fate usare, drogati. Ok, fallo drogare, se no non. Avete una domanda che volete che gli spiriti rispondano? Esiste Babbo Natale? No, come conosciamo da sto trip? Dite, esiste Babbo Natale? Questa è la domanda, tutti d'accordo? Va bene, va bene. Mi drogo. È buono. Oh, è amaro. Ora finalmente lo possiamo mettere alla guida. Buono. Ok, mi drogo. È amarissimo in realtà. Partiamo. Ok, no, cosa avete deciso di fare ora che sapete e questo scelto. Che la lista è finita? Questo sono usato. Mi drogo e per due minuti sono stordito. Posso fare una domanda al GM? Questa risposta è molto legata. E devi darmi una risposta, immagino. Non c'è scritto che devi darmi una risposta. C'è scritto solo che posso farti una domanda. E qual è la domanda? La domanda è: esiste Babbo Natale a quanto pare? Nel tuo cuore? Sì. No, esisteva. Esiste, ho chiesto. Quindi immagino il presente. E allora no. Vedi, c'è per ok, quello. Adesso subisco no. Psiche, qualsiasi cosa significa. Dovevi chiedergli 100 PF di qualcosa. Ma ti posso aiutare. Ordinaglieli. A chi? A Zon. Ah, è vero. Prima Zonama. Di ucciderlo. Zonama. Aspetta. Cosa? Mi sta guardando cosa significa il no, c'è anche scienziato. Mi è andato da 100, Marco. Vabbè, mi uscirò solo un XP in più se quando scienziato la... 74 Regressione improvvisa, subisci meno uno in mente e perdi un livello, ma tu sei a livello minimo. Quindi, è una bella idea. Drogati più spesso, è proprio una bella idea. Antidepressivo. È un'altra droga. Okay. No, volevo dire. Annulla gli effetti di un psiche per un di 10 ore. Quindi dopo, okay, ditemi. Dopo due minuti torno e dico... Oh, non tenevo. Devi guidare, Giulio. Che mal di testa. Okay. Anche io devo guidare, cazzo. Babbo, Babbo Natale non esiste. Non sono abituato a guidare. Babbo Natale non esiste. Fin qua. Cominciavamo a intuirlo tutti. Bene, Bomber, calati questo, va? Era la domanda che volevate, ho risposto. Calati questo, è Bombero. Stato bravo. Bombero, tieni, tieni, tieni, prendilo. Provalo. Ok, tieni questo. E gli do una pannocchia. Ok. Ottimo! Io voglio sapere cosa allora, tu tiri, aspetta, antidepressivo sta prendendo. Aspetta. La mia filosofia di vita, aspetta. Aspetta. La mia filosofia di vita è sempre di arraffare tutto quello che si può. Abbiamo davanti uno che produce qualsiasi cosa. Davvero nessuno di voi vuole chiedergli qualcosa? Per un secondo. Marco cosa. Prende uno psiche, cioè annulla gli effetti di un psiche per un di 10 ore l'antidepressivo. Tira il di 10. Vediamo per quante ore. Quindi se per un po' forse non hai ben bene. Un'ora non hai per un'ora. E io mi mangio la pannocchia che mi ha appena dato. No, io posso chiedergli di 100 PF. Io mangio la pannocchia. E siamo a 3. 100 PF di un materiale. Sì, devi pagare però. Sì. Pago. Qual è il materiale più economico che hai? Paga. Qual è il materiale più economico che hai? 100 PF. Polistirolo. Lo usiamo per imballare le cose. Plastica, Cartone, si è fatto così che è brutto. Quello più economico, cioè se c'hai un'offerta su 100 PF. Scusa, Montenegro? Sì. Mi sembra chiaro che comunque ha avuto il mio aiuto in questa idea. Lo dico... Sì, cartone però... o plastica? Quanto costano 100 PF di cartone? E poi dove cazzo li metti? Non è che sei altruista, me non hai aiutato. Accumulatore devo... E dove li mettiamo? Tira un dado di interazione. Siete una borsa dimensionale 5. Non hai più uno. Allora costano 100 monete, 100, anzi 100 sloppy. Se quelle erano 1000 erano 5000. Quindi 500 sloppy. Esatto. E monete. Vuole 500 della nostra, del nostro coin. Ce li ho. In realtà ti sta fregando alla grande, ma tu non lo sai. Ce li ho. Però... per te che sono una stronzata. Però se vai a vedere tipo il prezzo più basso. Ah, ok. Cosa? Se vuoi ti posso dare la spilla, vai a 250. No, lui sa che non è il prezzo più basso. Vedi che il prezzo più alto in realtà è stato scontato prima dello sconto e poi ti dà 100. Ti posso dare la spilla che per lui vale 2000. Non è così... No. Però devo avere il resto. Mi puoi dare il resto, per favore? No. Allora mi sa che ti posso dare solo ti posso pagare in carta. Eh? Ti do no, vai, non puoi fare un buono. Prendi qualcos'altro, Arci. Ti faccio un buono. Un nuovo? Ti faccio un buono nel mio negozio. Un nuovo vuol dire. Esatto. Un nuovo, sì. Ok, uccidiamo. Nuovo. Ti fai dare il cartone e un buono. Avete due scelte. O lo uccidete. O lo uccidete. Oh. O tornate direttamente indietro. Ma che senso ha ucciderlo? Perché non lo so, io devo iniziare tre combattimenti. Ormai la lista è che è il nostro target. Ma nessuno ha mai parlato di uccidere. Uno l'abbiamo ucciso, due l'abbiamo ucciso. Sì. Ma allora, il primo è stato un po' un impulso, il secondo l'hai ucciso tu per sbaglio. Io devo raggiungere l'illuminazione. Un po' un impulso, gli ha sparato una bomba di fuoco addosso. È stato impulsivo. Questo a parte che non sapevo come funzionasse. Però esplosione di fuoco. È stata un'esplosione di fuoco. Io batterei anche questo. Doveva dirlo. Ma perché... Non ha fatto niente di male. Dico, caro signor Tsunama, lei ha dei nemici? Che chiedo a Tsunama se ha dei nemici. Imprenditore? Vabbè, io sparo. Cazzo, imprenditore? No, non questo gruppo ha una certa propensione a risolvere tutto con la portiamolo con noi. Il master ha detto che dobbiamo ucciderlo e tornare alla base. Perché... Possiamo provare a convincerlo di venire con noi? Venire dove? Ma tu ancora non scendo. Possono esserci opportunità di business. Posso usare un incantesimo? Dovrei venire con voi. Fatemi un tiro di interazione. Ma posso usare Charm? No, devi spendere XP. Come cos'è? No, charm? No, è un suo incantesimo. È un incantesimo. Ma è un incantesimo charm? È certo. E userò. Anche no, uno. Puoi usarlo, sì. Dice figaccione. Puoi usare una magia o invocazione tra parentesi charm di primo livello a scelta una volta ogni 24 ore. Dai, fatemi usare il mio potere. Sì, anche perché adesso comincia ad andare veramente. Avete due scelte, quindi in base a cosa fa. Se avessi fatto 4, hai fatto 4. Non viene. Non viene. No, devi far 6. Vai col mitragliatore. No, dice, guarda, grazie, ma puoi chiamare uno dei miei dipendenti. Posso spendere un Pix per ritirare, per portarlo con noi. Per ritirare il dado. Vuoi dare un altro Pix? Un altro XP al nemico. Lo devo dare. Però secondo me era figo se veniva con noi. Ma perché dobbiamo uccidere? Perché secondo me alla fine esatto. Beh, però ce l'ha detto. Ha chi detto che possiamo anche tornare indietro. Cioè, tornare indietro. Torniamo indietro. Torniamo indietro. Torniamo indietro. Ok, quindi risalite sulla slitta. Poveri Boblin e DJI. Sì. Poi DJI mi ha fatto anche scoprire. Premiamo non avete avuto coraggio. Tornare alla base. Ma perché dobbiamo uccidere un innocente? Ragazzi, sono innocente, non allarghiamo. Ammazzami innocente e pare che in questa dimensione non sfruttassi rega, ma non capite che rappresentano i mali. Cioè sono tipo... Vez, quanti regali di compleanno e di Natale hai comprato nell'ultimo anno su Amazon? Mettiamola ai voti. Mettiamola ai voti. Ma mi ha già detto ma lui vuole ucciderlo. No. Io ho già ucciso il mio. Siete voi che dovete fare il lavoro. Io vorrei uccidere volentieri, però devo uccidere te. Grazie, mi ha già lavorato. Chi è per non ucciderlo? Oh, io ho ucciso il mio, mi sono beccato gli accidenti di tutti. Adesso ti vogliono ammazzare e copiare. Chi è che per non ucciderlo? Io mi astengo. Tu vuoi ucciderlo o no? Catta. Non frega niente. Quindi ti astieni? Sì. Allora siamo due. Catta, sei per non ucciderlo, 3 voti, quindi basta. Devo usare la mia XP. Dai, torniamo alla base. Base, è stato un piacere, Zon. Fatemi usare il mio XP, però. Posso usare il mio XP alla base? Uccidiamo l'orco, elfo, nero. Che XP vuoi usare? Rega, allora, usare il mio potere ancora. Perché ti trasformi in un mostro. Sì, lo voglio vedere. Questa è piena di illusione. E arrivate in un posto che non è esattamente l'hangar che vedevate all'inizio, ma è più buio. Per terra vedete che su tutta la terra è sparsa una sorta di poltiglia nera, come fosse collosa, e vedete in fondo a questa stanza in cui siete atterrati una sorta di robot gigante rosso con la faccia di Babbo Natale, per dire, cioè quello Babbo Natale Coca-Cola, per dire. Sì. E davanti a lui c'è l'elfo. Okay. E guarda e fa... Siete già tornati? La poltiglia nera appiccicosa è tipo lava. Cioè, non hanno voluto uccidere il terzo. Catrame ancora non asciugato. Che sembra catrame, sì, non è catrame, ma lo sembra. Sembra un po' l'interiore. Abbiamo usato una presa per il culo, per il... Come chiami tu, Marco? Kill cool. Abbiamo sembrato una presa per l'Ical Cool, tutta la faccenda della missione. E perché non avete finito completato la lista? Abbiamo ucciso l'ultima persona malvagia. Nessuno ha mai parlato di uccidere. Così non funziona, rovinerete il Natale a molte persone. Ma tu non c'hai detto di ucciderlo. Se no l'avremmo ucciso. Ma stava a dirlo. Forse sei tu il malvagio. È vero, all'inizio quando noi abbiamo detto dobbiamo ucciderli, io ho detto no, dovete trovarli e cercare informazioni su Babbo Natale. Noi Babbo Natale è ancora scomparso, non l'avete trovato. Perché non sapevano dov'è. E cos'è forse... quella cosa detto di te, Babbo Natale? Forse perché non esiste. Babbo Natale è qui dietro di me, non esiste perché non può esistere se sono quelle persone, dovete ucciderle. Quindi l'abbiamo trovato dietro di te. Allora le parole consegne non erano chiare. Mi avete molto deluso. E poi perché non sei andato tu ad ucciderli? Ora che ti abbiamo deluso ci puoi liberare. Quante esperienze avete? Okay. Io 3. 2. 4. Vuoi il totale? No, voglio sapere, vi si aggiungono punti esperienza in più dati dai vostri obiettivi? No. Sì! Sì. Ah, ah no, vabbè, io che ho comprato la plastica, la carta lì. Quello di carta. Allora hai un punto esperienza in più. Io avrei dovuto aiutare tutti. Devo prendere la riserva centrale. Ok. Io avrei dovuto aiutare tutti, vero, per completare il mio dell'altruista. Sì. Non hai fatto un cazzo. Tra cui uccidi, iniziare tre combattimenti. Non è iniziato neanche uno. Ok, no, ho provato. Dura poco. Cosa? Tirate? Sono stato solo per medio minuto. Ah, Katta? No, Katta non è mai stato solo. No, quindi uno per Katta. E allora puoi prendere un punto esperienza. Esatto, lo aggiungiamo Katta. Mannaggia, io ero arrivato a tre cibi e cose. Siamo in tre posti diversi, ho preso un po' più, la merendina l'hai contata. Era trovare l'illuminazione. La merendina l'hai contata. La merendina, il gin tonic e la pannocchia. Potevi prendere una droga per trovare l'illuminazione. Lo so, però no, le mie droghe. 5 era difficile, non siamo stati in 5 posti diversi. Tirate. Iniziativa? Sì. 10 sui riflessi. 10. Giusto? 8. No, 7, scusate, ho nel riflesso meno 1. Di nuovo 10. 7. Occhio Marco che ha fatto meglio. Scusate, Marco 7. Scelgo quanto? 10 di nuovo. Magari era contento, okay, succedeva. 10, aspetta, ma noi vediamo... Io 7. Anch'io, sono 10. Vediamo Katta o no? Come? Tutti 10 avete fatto? No, io 7. E Katta 1. Katta mi sa 1. Io 7. Però considera Katta 2, perché se le prove nostre valgono meno 1. Ok. Ma solo se vediamo Katta, se abbiamo le spalle a Katta no. Vabbè, quando Katta è lì. No, perché se Katta è dietro, dopo solo Babbo Natale almeno uno. Allora, arrivo, Tanto ripeto, dura poco. Dura poco. Siete morti. Dai, fatemi usare il mio, però. Siamo ricchi e morti. Vabbè, cominciate quelli che hanno fatto 10, mettetevi d'accordo. Io nel fight c'è poca roba da fare. Sparo al collo. Io sabato dovrei utilizzare un punto di esperienza. Sì. Puoi usarlo, puoi usare quelli che hai. Per ricaricare gli incantesimi. Ne uso uno. Per quello di secondo livello. E, poi e dove lo metto? Nella sala. Quelli che usiamo noi li diamo a lui. E ricarico l'esplosione di fuoco e uso quella. No, ricarica è un turno, quindi il prossimo turno puoi usarlo. Dice che è gratuito. Come se è gratuito, sì. La ricarica? Sì. Ah, allora niente. Spendendo un pixel ricarica, che ti usate? Fai i danni. Ok. Cosa sono 2 di 10, ho detto? Nell'area di 5 metri, quindi becco. Sia lui che 10 danni in totale. Ok. Sia lui che l'elfo. Lui è l'elfo. Quello dicevo. Io sparo con il mitragliatore pesante. Vabbè, questo spara a fuoco, il mitragliatore arrivo io sparo con la mia balestra. Cioè, io do un colpo con un bastone. Ma tu puoi fare... Ah no, magie, no, no. Però non so cosa devo fare con il mitragliatore pesante. Cosa fa? Veramente l'armato? No, fuori strada? Sì, però non so. Dici, salgo sul fuoristrada e sì, best. Ma cosa vai? È una maniera di... No, quello che voglio sostanzialmente. Io avrei fatto arrivare l'elicottero, salivi sulla corda calata col tuo mitragliatore mentre l'elicottero volava. No, facevo l'arrivo in Jinx nell'ultima puntata di Arcane. Ah, non l'ho ancora visto, non spoiler. Vabbè, se ho detto l'arrivo di Jinx... Bella, cioè in realtà un po', vabbè, un po' incasinata, Non è così chiaro. No, vabbè, ne parliamo dopo. Anche. Un po' un viaggione. Che è successo? Viaggio vinto? No. No. Io devo sparare, ma non so come devo sparare. Devi tirare su riflessi. Riflessi. 5, niente. Abbiamo già vinto. 5 mancato. Ok, provo anch'io, quindi con riflessi immagino con la balestra a ripetizione. Sì. Tutti 10 avete fatto? 3. Anche Marco? No, esatto. Allora, vedete che lui non fa niente, ma è come se l'elfo cominciasse a cambiare e da elfo diventasse tipo, cioè da il coso di Babbo Natale diventasse super serio, super triste, super insomma nero, per tutti gli addobbi natalizi che aveva, e fa: il Natale non è più divertente, l'avete rovinato, e non vi azzardate più a ridere o fare battute, e vi guarda seriamente e basta. Ok. Io mi sto divertendo. Quella da 7 sta? Sì. Tocca quella da 7. Sì. È il Grinch praticamente. Beh, io a sto punto voglio usare il mio coso. Quindi uso un XP. Cioè, in realtà non posso fare niente in questo turno, però come azione dell'entità che ti possiede prendi il controllo, cambi caratteri e ottieni uno per incantesimo finché non spendi un'azione e superi spirito, sei posseduto. Da un'entità tua scelta, se qualcosa cerca di possederti o di controllarti mentalmente, riceverai un bonus di più 1 di 10 nel resistere. Vabbè, intanto ti do. E okay, qual è l'entità a tua scelta? Ma entità demoniaca, non so che entità ci sia. Da quel tipo, piego la testa indietro completamente e faccio bla. Qualcosa di utile. E infatti non c'è niente da ridere. Potresti scegliere qualcosa che ci aiuti nel combatterlo. Sì, io non so che incantesimi prendo, onestamente. Perché, perché posso scegliere delle unità. Camminare con le gambe davanti alle spalle. Io non vedo qua nella scheda. No, non c'è lì. Scelgo io. Demone hai detto? Boh, sì. Sì, ci sta. La cosa più cattiva. Ti mando la foto di un demone. Ah. Ti mando la foto. Ecco il mio demone. Un pacchetto magico. Boh, non lo so, che altre entità ci sono, scusa. No, demone va bene. Dai, ci sta. A meno che non sia una tabella e lo facciamo tirare. Se no, fa tirare una tabella, come vuoi. No, tua scelta. Dai, se è una tabella, però, visto il mood, secondo me. Non c'è la tabella, però, vabbè, ti ho mandato un po' di demoni, scegli quello che vuoi. Dai. Vabbè. Vezzi. Penso che il mio turno sia essere posseduto, poi dopo... Beh, demone possessore, Vezzi. Ok, Vezzi, demone possessore. Demone dell'abisso. Demoniente. Cosa fa me di diavolessa tentatrice. Mancato? Marco? Cosa fa meditazione mistica? Beh, ci sta il demone possessore. È un incantesimo? Sei posseduto. Sì, però io devo fare degli incantesimi, non so quali siano. Quello non lo so, però ti dà... No, è un'invocazione. No, quella possessore più 5 danni. Più 5 danni in corpo a corpo. No, possessore, vabbè... E sei immune al dolore. Ti dà più nei riflessi. Quindi... Vomito malefico, beh, fai il demone corruttore. Se no mi drogo e mi stordisco e vi ciao. Buono il fuono, malattie, veleno e paura. Frusta. Ah, per ogni ora spesa non fare nulla guarisce un di 10. Ma il demone dell'abisso che è immune al fuoco, visto che questo continua a sparare. Fuoco e fiamme di quelli. Finito, no. Cosa devo fare? Dite io. No, io avrei fatto il possessore, ma perché ha senso col fatto di posseduto. Beh, sei forte in corpo, ti dà più 5 in corpo. Quanto dura un turno in questo gioco? Andresti in corpo a corpo. Ah, posso possedere lui però. Però il demone... 6 secondi. Ah, ok, no, quindi anche questo. Cioè, il demonietto che fa il rutto infernale e dà meno 1 iniziativa per la puzza al bersaglio è interessante. No, prova a drogare il tizio. Come lo drogo? E gli lanci la cosa in bocca, che cazzo ne so. È una cosa possibile in questo gioco lanciare la droga in bocca? Ma mi sembra adatto il demone dell'abisso, però io devo un incantesimo, cioè non è molto grande. No. È figo anche. Vabbè, gli lancio un pugnale. Tira su riflessi. È figo anche il corruttore, in realtà. È forte anche quello. 5. Mancato. Tocca quelli di 10. Ma io posso usare un altro PX e sparare un'altra palla di fuoco? Vabbè, sì. Sì. Accumulare PX. Puoi farlo. Riga, che cazzo faccio se no? No, mi spalmo la crema solare. Sì. Aumenta la resistenza contro il fuoco per di 10 ore. Sala, gli lancio. Beh, un bel 14 disco, danni, però è molto forte, rega. In the face. Io gli risparo. In realtà gli avete fatto un botto di danno, già. Cioè, Arci. Gli risparo forse col mitragliatore. Forse. Vai. 3. Porca. Provo. Aspetta, io posso spendere uno per ritirare. Sì. Sì. Ci sta 2. Ok, provo a spendere un altro per ritirare. Provo io con la balestra. Vabbè, 1 più 1, 2. Gli abbiamo fatto un sacco di danni. Tocca a voi. Allora, tutti voi dobbiamo fare una prova di riflessi. Che stiamo andando benissimo io e Giulio, quindi... 6 6 7. Allora, chi ha fallito praticamente sono la Giulio. Melma attorno a voi vi attacca. Oh cazzo, 3. Giulio e Bez, non so, catta. E vi fa... No, 2 anzi. Anche catta. 15. Cazzo. 15 danni a Giulio, Bez e catta. Dipende però, ma io prendo i punti ferita del demone. Sì. Sì. Ah, beh, se sono il demone dell'abisso no problema. Che demone sei? Hai appena scelto di essere quello dell'abisso, direi. 200 PF. 200 PF. Cosa sta ridendo adesso? Voi quattro, tirate un tiro percentuale tutti. Voi quattro chi? No, uno di voi quattro, tira un dado. 200 PF, ma sì, di brutto, non l'avevo visto. 54. Ma sì, Vezzimo, più forte, almeno sono più forte. Stai lì a prendere le botte, sì, sì. 200 PF, stai lì tutta la vita. Allora, quello che succede, visto che voi state ridendo... Voi quattro, Sceo, Marco, Arci e Vez, il Natale non fa ridere perché l'avete rovinato. Sentite che avete un grosso peso dentro di voi. Ogni volta che subite danni, adesso siete maledetti. Sono un cazzo di demone. Io però non ho subito danni ancora. Però hai riso, quindi sei maledetto. Quindi adesso, tutte le volte che se subirai danni... Immune al fuoco, malattie, veleno e paura. Io posso distruggere l'abito da sport. Ma noi ridevamo di Vez, non del Natale. È uguale, il Natale non fare. Io posso distruggere l'abito da sposa per abbassare i danni. Sì. Ah, è vero, giusto. Con l'elicottero. La sposa cadavere fa Giulia. Adesso no, come funziona? Vabbè, ma cosa quindi... significa di... Ma io sono il demone dell'abisso, quindi uso tutto quello del demone dell'abisso. Danno. No, in teoria ho l'incantesimo, ma forse non posso usare questo fiammata. Distruggo l'abito da sposa e prendo solo 11 danni. Sì, vai. Cioè, boh, fiammata di 30, cono 10 metri per 3 usi. Ci ammazza tutti. È un po' bangato questo demone che ha scelto. Usi di 30 però, figo. Di 30? No, di 30 credo che sia... Ah sì, lo deve tirarlo? Di dista per danno diventi, devi tirarlo, sì. Ma forse vuoi dire questo? Sì. L'ho comprato... Ah, e se fai abbastanza alto lo ammazzi, te lo dico. 25. Minchia. È morto. Non si ride a Natale. Le scarpette di sopravvivenza d'inferno, stronza. Credo, non lo so se c'erano dei limiti sul demone da poter scegliere, perché era un tantino buggato questo. Secondo me il demone lo poteva scegliere a livello... Perché, in realtà voi avete speso, perché la sessione è stata molto narrativa, voi avete speso pochi... Se non ne avremmo avuti pochi adesso, tu dici. E quindi in realtà io ho pochi punti esperienza quando ho cominciato. Adesso ne avete speso un botto. Adesso ne hai 9. Però prima ne avevo pochi. Sì, mica finita, Adesso devo riprendervi, se no il prossimo siete voi, In effetti, va bene. In realtà avete ucciso l'elfo. Babbo Natale non esiste e basta. Il Natale non fa ridere davvero. Ora combattete contro di me, stronzi. E io sono con un mitragliatore pesante e mutande. Ah, ma adesso se non fosse più corta, però. Beh, in realtà, dai. Reggiseno autoreggente. Sicuramente delirante è stato delirante. Giusto per. Il punto era che in realtà lui voleva farmi uccidere la gente o comunque portarla da lui, perché lui voleva rifare ripartire Babbo Natale, che non esiste più. Ok, quindi era buono in realtà. Perché è stato sostituito da Amazon. No, perché era voleva uccidere. In realtà erano tutti pezzi di merda, nel senso lui perché Babbo Natale lo voleva fare perché gli altri gli rubavano il lavoro e loro perché in realtà avevano ucciso il Natale perché... Ma se li avessimo portati con noi avrebbero combattuto con noi, curiosità. Tipo scopriamo che Zon Ama aveva dei poteri... Vabbè, ma come faceva? Lanciava pacchi... Come faceva a portare l'occhio? Boblin va bene. Beh, lo convincevi a venire... Saliva sul Charme. Perché Boblin era quello che faceva che consegnava i pacchi, cioè faceva i trasporti. C'è il trasporto. Il DJ aveva tipo, cioè capiva cosa la gente voleva e quell'altro creava le cose. Giusto. Ma c'è un lieto fine, torniamo a casa. Sì, sì, voi tornate a casa, il lieto fine c'è. Tornate a casa, un cazzo di demone dell'abisso, rega, non avete capito. Cioè, no, Ma se mica sta qua da Vezzo, no. Hai ragione. Cambiava però qualcosa? Alla fine è che morite tutti perché Vezzo vi ammazza. Mm. Cambiava qualcosa? A meno che non passi un tiro di mente, credo. E cambiava qualcosa se uccidevamo anche il terzo, no? Oops. Due. No, sì. Lo si era tale stronzo. Come? Cioè, potevate a quel punto allearvi a lui e diventare Babbo Natale. Ah. Sono io, cazzo di Babbo Natale. Aspettate, perché voi non avete finito la missione. Oh. Ah, quindi sarebbe stato il lieto fine in cui noi diventavamo degli elfi di Babbo Natale. Che non è un lieto fine, però sì. Non volevo diventare. Beh, io avevo già il vantaggio di essere elfo. Comunque, io anche tu ci pensi, torna a casa mia e compro quel cazzo che vuoi. Grande Sdign, bravo. Grazie. Buon Natale a tutti quelli che ci hanno seguito. Continuate a farlo sui nostri canali social di Tycoons & Dragons e RGDR. Buon 2025, buon 2020 botte. Ditini. Non ci arrivo neanche. Ciao. Buonanotte. Ciao ragazzi, buon anno. Il problema è che sono venuti in macchina. Sei venuto in macchina? Sì, perfetto.